incrocio con Arghero, Sara, e quindi passa per Don Torres. Non ero io. Ah, sei sembrato tu. Verso le... più dalle 8 erano. No, non ero io. No. Comunque buonasera a tutti. Brava. No, stavo cercando di fare informazione, niente. Nada, se puoi. Vabbè, su una... che è in associazione al CISO. Gava, e come si chiama? Hillary. No, è venuta l'altro giorno a trovarci. Moina. Sì. Ma non la conosco bene. Ah, è bionda con gli occhi azzurri. Ma non la conosco bene. Monia si chiama. Ehi, Monia, Moira, già hai capito. Monia di Cicco. Non so il cognome, già hai capito chi è? Sì, sì, ti ho capito, ma non la conosco molto bene, non c'è da molto manco da lui, La conosco così, la vedo poche volte. Andiamo a passare il cuo. Intanto, stavo parlando così, no? Ma sei tu il CISO, gli ho fatto il tuo nome, te già ti conosce. Capo. Stasera perché ho visto che c'era il vento e non mi ho preso l'esca, stavo per andare, dico la verità, ma ho visto che si stava alzando il vento, ho detto poi prendo l'esca, spendo il sud e poi magari non si piglia nulla, perché quando c'è il vento solitamente non pigli nulla. Perché? Americani. Avanti. Buonasera Alessandro, ben sentito, vai. In compagnia di Gianfranco, Daniele, io, sottoscritto, e poi c'è anche Robo. Stavo dicendo, c'è un QRM devastante. Ma io sembra quasi uno splatter, boh, che sento, beh, che solitamente non li sento, Poi quello della propagazione che ti copre anche quando parli, ci credi? È un QSO in FM. Oh Gianni, sono solo modulazioni in FM. Oh Gianni! Eia! Quando entri in linea di là, ricorda che devo dire una cosa. Eia, adesso se vuoi l'accendo, l'accendo, l'accendo. Sai cos'è? Sono dall'altra parte, non mi dura la batteria. Torno a fare un caso da portarlo qua al portatile. Com'è che ne sei due? Chiara, chiara! Tanto vabbè, tra un po' già vado a fare il carico, se ti becco in linea già te lo scrivo. Perché te l'ho letto l'altro giorno, adesso non l'hai letto. No, ho letto no. Perché poi mi ha chiamato un'amica, mi sono distratta. Cazzo, allora Gianni Greddu. Era sempre quella là, lo sai. E chi? Allella. E me? Sempre piena di figli. Ah, e lui, lasciamo perdere. Ma ci perdi. Andate, dai. Continuate, dai, io stavo ascolto. Già lo saccio, io non ci sono qua ma su tutto. Gabbo, non sai come si dice a Sassari, sì. Avanti Gianfranco. Se mi sentite, perché questi erano momenti furfi, chiacchierando non troppo in FM, penso che Celsius è abbastanza piccolino. Ho girato se ne FM e non c'è nessuno. Ah, ma stai scherzando? Io sono sotto antenna e stanno arrivando 8, 9. Ah, sì, hai ragione, hai ragione, sono in FM. Avevo sbagliato io, avevo portato il commutatore fin giù dell'FM. Ma non è proprio vicino, io sono via Baldeda, in alto in alto. Ah, no, no, qui lontano, diciamo che le antenne magari si vedono, se non, non, io non so se sia con l'antenna che si vede dritta dritta sul chilometro, se quella lì la tua antenna, non lo so, so. No, no, no, no, non è su, sono molto più in basso, e poi ce ne sono tre antenne, sì, a me ci sono tre, ah, le tue, ah, ho capito dove sei, ma sei proprio sulla Budi o internamente? Beh, internamente. Che ho capito, è fotografo c'è. Ho detto fotografo c'è di vicino. Ho capito dove si, dai, andate. No, non siamo troppo vicini allora Gianfra, magari si vedono le antenne di linea d'aria, ma non siamo troppo vicini, perché io abito dietro la Baldeda, nella zona di Badimanna. Ok, va bene, sei trendy, che dovrate, non sono più abituato, veramente, io quando sono visto, no? Avanti, roba, là. La fa di Roggero, ma mi sento male. Mi sento male, c'è troppo QRM, davvero questi qua stanno esagerando in FM, che non ho capito, sono i soliti tedeschi. Non c'è QRM, ci sono in FM gli stranieri, sono stranieri in FM, solo in questo canale. Ciao, Gigino Vulcano, ben sentito. Ciao, Gigino. Sono stranieri, arrivano un po'. Vi spostate, che spostate di qui, diciamo, sul canale, così ci sono nel paese. Passare la competenza, grazie. Vabbè, non c'è più nessuno. Ehi, allà, sono qua. Sono tutti i canali comunque, certo partiamo. Ho visto. È un bello casino. Deve essere che pompa, no? Anche. Abbassa poco l'elco. Non ti credere, normalmente facciamo quattro va. Sono come antenne, insomma. Magari sono direttiva. No, non sono un diretto, no, ci sono degli apparecchi. Però c'è un altro. So che loro con l'FM ci fanno obbligatoria, capisci? Lo so, almeno va a toccare a me. Ma in effetti è meglio, la FM è molto meglio, chiara, più bella, non si disturba enormemente di me. Ma diciamo che di per sé l'FM è molto più disturbata, dovresti chiudere lo squelch, è bello quando chiudi lo squelch e te lo riaprono, allora è diventata una telefonata, però io molte volte ho notato che c'è un medico a RM. No, però non è QRM, è la modulazione di frequenza. Se guardi qualunque radio in FM, è molto più chiara. L'AM va bene per gli aerei. Lo so, però noi siamo abituati così. Poi ci sono mille canali, ci sono canali di sotto, ci sono, per dire, ti sposti 10 km verso i canali alfa, e ce n'è di modi di trovare un cantuccio più libero. Il cellulare, sì, cosa fai? Ma quelli sono tedeschi e non sono come gli italiani, quelli sono tedeschi con precisi 22 canali per avanti. Sono rigorosi, di fermi, immobili. Senti che suona, wow, lo sentite? E non mi... Cane sciolto. solito si usa a partire quando le persone sono sempre contro loro. Poi io ho l'abitudine di mangiare la roba del cane. Ma era buono, no vabbè, ma non è... Questi baracchini stanno che hanno un difetto, però non riesco a regolare il volume, è sempre molto alto. Poi sono rimasto su questo apparecchio, noi lo possiamo modificare abbassando il volume, sono rimasto da... Ma invece è proprio per questo motivo che io ho chiesto che su questo canale si evitasse di usare determinate cose quali camere eco e altre cose che amplificano troppo la modulazione, perché purtroppo non essendo omogenea la modulazione, nel momento in cui è troppo eterogenea dà fastidio nell'ascolto. Perché non c'è un controllo per pianificare il volume, ma lo fa anche su altre frequenze. Quando entra qualcuno che sta sempre a urla, mi tocca passare, poi rialzare, fare una volta, la fa. Ma è che vabbè, comunque è risaputo, non ha più punti. È meglio un pianificato, decisamente, sono tutti gli stessi miti. Assolutamente sì, assolutamente sì. Stavo dicendo, Alfa Bravo, ma quindi niente, non posso fare opera di progenitismo. Dopo tanti anni che ormai sono adottato brado, dappertutto, qua, là, a destra e a sinistra, tu mi vuoi, come si dice, convertire. Ormai sono l'anima persa. È che la verità, sai che cosa? Abbiamo bisogno di persone come te che hanno un certo modo di modulare, una certa esperienza e cioè, fa piacere, capito? Fa piacere modulare con te, quindi farebbe piacere averti come associato. No, tanto non mi convinci, sono di quelli proprio come si dice? Non è per me, capito? Anche perché poi figurati. Da qualche altra parte mai sorprendere, beh, è come, non è mai stato qua e va là, no, mi prenderebbero, no, preferisco così, anche perché i miei interessi poi sono diversi, da sono un po' più, come si dice, specializzati, capito, al di fuori anche dal campo di quelli di sopra spesso, allora. Poi a periodi del modulo, tra l'altro, quindi non sono un GS, non ce ne va a fare. Assolutamente sì, ti capisco perché lo sono stato per variato tempo, cioè fino a ieri anch'io, e dà ben altre soddisfazioni sicuramente. E battere bandiera nera con, come si chiamava, non era Roger, era il teschio, come viene chiamato. La Blackjack, che mi ha fatto già. Blackjack, assolutamente, a casa mia ci mancherebbe, batteva con la bandiera per, ho abbattuto quantomeno per 30 anni. Sì, ma la Blackjack è quella di Tiranti, non confondiamo. Io sono un cane sciolto nel senso che non faccio parte di quelle associazioni eccetera eccetera eccetera, ma non è perché sia pirata, ci mancherebbe altro, sono super autorizzato eccetera eccetera. Sono stato iscritto, però quando ero proprio all'inizio, non mi ricordo neanche quando, però ero già fatto attore, poi ho dato l'esame eccetera, e niente, non ho proseguito, non c'era più, capito, quando inizia a abbandonare il campo della radio, a me piace il campo della radio, soprattutto da radio ascolto, quando non trovi più i corrispettivi, allora ti allontani, sono tutti, la maggior parte che sono, tra l'altro, come sentirai se ti ascolto, sono veramente stupido. La maggior parte, il 90% è dedito all'IEX, o meglio l'IEX non può fare di meno, ma mi seguisce pure perché sono già qua anche preparazione. però no, preferisco l'ascolto impegnato, mi riporta di più. Nel caso ci dovessi ripensare, comunque sappi che la porta è sempre aperta. Daniele, narrami. Fai Roger, ma quindi domani mattina caffeina? Cava caffeina, che so, libero sino a mezzogiorno e mezzo, dai, mezzogiorno e un quarto sono libero, sino a quell'ora, che poi devo andare a tagliare i barocchi. Ma non la brioche. A me fa la mamma nata. Dammi lo yogurt. Ma cosa ha detto brioche? Hai toccato brioche. Brioche, tu non hai mai assaggiato le brioche del Cornetteros? Ascolta, domattina ho fatto colazione ad Andrea alle 7, ho mangiato una di quelle ciambelle calde con un bel caffè macchiato e mezza gasata, sono arrivato all'impianto di oggi, se no mi cago sotto. A casa calda? Quello è il caffè quando la macchina scoppia. No, già la fa, secondo me era un cornetto blu che era troppo caldo, infatti non è tanto, aspetta, che era fredda, no, sono in fretta, non mangio così, madonna santa, mi ha scombussolato il midollo, fortunatamente 8 km ce l'ho fatta, altrimenti se non avevo l'impianto di Nurvi, cioè di Osero, le chiavi, arrivare a Nurvi era proprio molto grigia, dovevo tornare indietro a casa. Meno male, dentro c'è un bel bagno. Infatti, tutti gli impianti, c'è l'ufficio col bagno, fortunatamente. No, vabbè, ma ero qua carbonato, quindi mi è venuto subito dopo che sono partito. Ma mai più caldo, è veramente, è buonissimo, però, mamma mia. Agosto. Ehi, tanto, proprio guarda, sono voi, quelli che ho lasciato prima, vabbè, fate Gianfranco. Ma Roger. Poi Clati mi presenta una cosa, passati 70 anni e la roba calda fa male. Vabbè, Gianfranco, a quel punto lì mi ha permesso il panolino, senza problemi. E poi ti dovrei trovare qualcuno che lo cambia anche. Ah, com'è, cambi di mano, vuoi già me la fuori. Da questo ingresso un po' anziché casereccio o caghereccio, parliamo di altro, avanti da me. Domani lavori qua. Porca miseria, domani avevo già programmato tutto da me. Una telefonata mi ha scombussolato il mondo, guarda. Domani mattina un giretto veloce con il mio collega, giusto dei controlli così ufficiali per fine settimana e poi a casa e siccome domani c'è niente a cena mi ero promesso di organizzarmi un po' la cucina, invece devo andare a Carloforte alle 2:30, 2:30 a 3 partirò accompagnare mio cognato a ritirarsi la barca e poi devo rientrare, quindi 2:30 a tornare, 2:30 a andare, 2:30 a rientrare. Io penso prima delle 7:30 alle 8 devo essere a casa. Sono più 30 km. Giannaggio, bocca gana. E te l'ho detto, questi che devi invitare a cena, mandali a mangiare pizza a qualche altra parte. Non ti preoccupare, tu sei tutto organizzato. Io sono una famiglia, non sono un vivo da solo, quindi l'organizzazione c'è. C'è l'aria a casa, c'è Anna. Non problema, quando gli ospiti arrivano alle 8:30, io sono già a casa tranquillo, non c'è problema, si può fare lo stesso, non sono in America, programmare, però ci vuole, cioè, non mi stanca guidare, ma non avevo nessuna voglia veramente, stamattina ero proprio una fiacca, ero mogio mio. Io c'ho un collega che gli ho messo batti la fiacca, ma stamattina sta poco di caldo stamattina. Dico già alle 7:10 sono uscito di casa, sono andato a prendere il mio collega che abita a via per Antonisciatta. Abbiamo fatto il giro, qui c'era San Romano al Corrato, qui c'era Andrea già aperto, e quindi siamo fermati da Andrea. Alle 7:30, alle 8 avevo già il condizionatore acceso, tomba la mattina. C'era minimo 26-27 gradi stamattina. Fino ancora un paio di giorni dura sta cosa, questo è uno del cale. Meno male stasera c'è un po' di vento. Girata maestrale, che è la cosa più bella che c'è, guarda. Alza il calato, alza il calato. Maledetto lui. Prima domani c'è nella stacco con l'antenna, non ti preoccupare. Domani c'è nella stacco chiamato. Avanti, grotte, grotte, riprendi. Sto mangiando. Mi chiedo un attimino di piano, scusate. E allora riprendere l'approfitto, vado a fare un po' di carica, sentiamo dopo. Va bene, caricati, io ci ho caricato. Già caricato, sono qua siete al fresco, anche se il mio braccio e il mio collo continua a fare effetto negativo. Pazienza. Diversamente non posso fare. E tu già hai fatto bene, ferie finite? Quando? Non va a iniziare, forse a settembre. E poi riguardo al collo, non so che fare, già sono con la compagnia. Ho pensato di andare da quel medico, quello che ti dà la ghigliottina, così risolvo il problema anche. No, io adesso lunedì, martedì faccio un cervicale, che vorrebbe la Lazio al mio medico per fare la cura, perché mi sto imbottendo di antinfiammatori, ho fatto anche la cura del cortisone, non mi ha fatto niente. Adesso faccio un cervicale, vediamo cosa c'è, e poi faccio filtrazioni, farò delle cose, perché non posso stare così. Non posso stare completamente, ne ho curato una, era la mosciata angia che è ancora più brutta, ho fatto un sacco di filtrazioni, una bella cura e fortunatamente non è più venuto il dolore, l'ha causato dal freddo, dalla moto, tante cose. Adesso proprio il braccio, il destro, col collo, proprio allucinante. Si blocca completamente il braccio, non devo strampare, e quindi anche la moto è archiviata, pazienza. E così non va a fare, soprattutto per così dire, io mi ho bloccato anche la schiena, mi sono accorto, e quindi pazienza, ce l'abbiamo usata, no? Che io mi è toccata anche la schiena da qualche vertebra che sono andata in quel posto. Qua, la schiena è micidiale. La schiena è micidiale, io l'ho provata, sono stato diversi anni. Il moto poi faceva ancora più male. Perché stando senza il moto non mi faceva niente, poi quando scendevo iniziavo la staffitta dietro ed era, guarda, per carità, quindi sono rimasto un po' senza usarla, ho fatto la cura, l'è passata, poi ci sono tornato e però non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, ho fatto come ha proibito il modo più assoluto, bicicletta, moto, tutto quello che per essere tutto così. L'ultima rimane lì e c'è la quadrigamma che basta prendere il patentino mia figlia, patentino A, me la userà lì. Va bene, quello che volevo dire, sacco e vedo chicchi che salgono con motivazione, quindi da sta facendo contro il VAT e la lancetta dovrebbe salire fino a 9, quindi non so che in sviluppo abbia, ci vorrebbe lo strumento lì per vedere un po' cosa succede il bello. Se il campo va tranquillo, io stesso ce l'ho 10 watt, l'importante è nuca, e picchimolazione sono oltre 50, è così, non vola così, quindi sono una colpa 340, però anche 140 fa la stessa cosa, 430, 80, sono tutti uguali, quelli che ho io, sono modificati tutti da Carlo per quanto riguarda la parte finale. Che una volta che questi la prendono quel foglietto poi spariscono misteriosamente, ci deve essere qualcuno che li rapisce, chi sia lo domanda, perché io sto sempre acceso ma non sento più nuovi, non ne conosco nemmeno uno neanche in radio, quindi speriamo bene. Comunque qua non sto usando quello grande, sto usando il Galaxy, è questo che ho modificato. Ok, riprendi, speriamo che non le facciamo fare con l'assunto. Ehi, hey, come quando abbiamo fatto noi, già fa. Come quando abbiamo fatto noi, qualcuno gli hanno invertito lo scritto. Ehi, Marco, c'è poco da giocare perché è tutto acquisti, quindi automaticamente non c'è niente da scambiare. A noi è che scambiavano i compiti. Parte del programma credo di averlo già non metabolizzato, però diciamo quantomeno lei in un mese lo ripasso e lo saprò a memoria. Dimmi un attimino, nel QRA familiare di casa Barbiero, ma con chi stanno parlando? Stiamo parlando da sole, tra madre e figlia. Non c'è nessun problema, perché senti tutto? Diciamo che quel microfono sta scattando, assolutamente, quindi sei messo in minoranza, ecco perché ti mandano a giocare con le radio. Diciamo che sono cose tra donne, non mi interessa. Non mi interessa, io sto bene qua, seduto nel mio shack, al fresco, tutto al fresco, va bene così, c'è una bella dieta. Benissimo, tu hai questo microfono, non è tanto il microfono quanto la radio è molto molto aperta, io ho un mic gain tra 1 e 2 e mezzo, a 1 e mezzo, processore inserito, il microfono non c'è niente da toccare, però una bella scheggetta, funziona benissimo questa radio. Maroglia, stiamo un attimino Ilaria, un attimino che le devo chiedere una cosa. Aspetta, state fanno. Vieni che ti vuole Antonio, meno lì. Aspetta, sta arrivando, eccola qua. Dica. Dimmi una verità, che cosa stai rinunciando domani per rimanere insieme ai vecchi? A nulla. No, a un'uscita così tranquilla, mondana. Visto cosa ti sta costringendo tuo padre, madonna. Bah, vabbè, cioè domani era giornata di discoteca di brutto. Ma siete giovani, ma fai lo vecchi. Siete giovani chi? Proprio. E no, io lo so. Sì, vecchio, tu sei già a 50 anni, papà, lui mi ha detto. 38 è già il giovane. Hai capito? Il giovane, aspetta un attimino che ti devo dire una cosa per il giovane Martino. Ben sentito Ilaria, ben sentito Claudio, da questa parte Pollicina. Ila, ma ieri non c'avevi il turno fino alle 9, è vero? Ieri, io sono 2 giorni in ferie, non mi parlate di quel posto. Capito? Più gli hamburger di mamma, cioè quando non ci sei tu non sono gli stessi hamburger, capito? Senti come parla un attimino Pollicina alla radio, ben sentiti e ben ascoltati, è molto naturale la voce che ha una dinamica davvero speciale. Allora figa, che mi dovete dare te alla radio, naturalmente. Ciao Chiara, buonasera, ben sentita. Ti salutano tutti qua. Nicola, salutate. Ciao! Ciao Chiara! Ciao! Ciao a tutti, Cla, ma sei sicuro che vuoi costringere tua figlia domani a rinunciare ad un'uscita? Per me si può fare anche in settimana. Nessuno la sta costringendo. Ho deciso di conservarmi questi soldi, da ho rimandato al prossimo sabato. Siccome lei quando esce è un porto senza fondo, è meglio che rimanga a casa. Perché se i soldi non le durano fino al prossimo stipendio, papi, non sgancia più niente. Papi infatti sta recuperando fumandogli le sigarette. E poi le regala i randaggi per strada, lasciamo perdere. Ascolta, se quello mi ha chiesto una sigaretta, cosa dovevo fare? Così non ne chiede altre e ne ho dato 2, no? Normale, uomo. Normale, uomo. Gaba. Comunque davvero Ilaria, pensaci bene, ti ripeto. Nel caso la cosa te la possiamo lasciare anche scritta lì, non c'è problema. Se non hai piacere non ti sentire obbligata. Ascolta, se non cambi discorso, adesso mi hai rotto le palle. Punto. Cosa stavi dicendo? No, parla là. No, non stavo dicendo niente. No, forse che è un piacere stare con voi, me lo stai dicendo. Non tu andiamo insieme alla macchina dello zucchero filato alla festa di Valeria. Ascolta, ci mettiamo a pagliacci, così non ci riconosce. Mamma di tutti, si la vedi. Mamma santa per le chiappi nere. Aeroporto invertiti a Bari. Sono davanti però. Davanti, vabbè, davanti, dietro. Ma dietro non è magra comunque. È magra. Non è grassa, eh. C'ha due balconi, c'ha. Due balconi e non da mangiare pure, da appoggiarti tranquillamente. Capita, siamo vecchi oramai qua. Va bene, approfitto per guardare la TV, che per me è già troppo tardi questo orario. Bisogna andare a letto presto, se no guai. E ciao a tutti, buon proseguimento, buona serata. Questi per me. Ciao ciao. Ciao, andiamo alle prossime, grazie del questo. Vai a tu. Ci sentiamo alle prossime se coincide, dai. Avanti Claudio. Siete due assieme, ho parlato. Sicuramente sono passato io, dai. 7351, comunque stavo dicendo, ben sentito, ben ascoltato, Alfa Bravo, ci sentiamo alle prossime. Avanti Claudio. Ciao Gianfrancia, le prossime, ci riascoltiamo. Oi, oi, oi. Caponato, va bene così. Io cerco di fare più fretta possibile, comunque voi. Alle 8 a casa, da Cerna in aria. E io stavo già arrivando, se non sono già arrivato. Cercherò di fare più fretta possibile. Ok. Non è un'idea invece andare tutti alla festa di Valeria. Andiamo tutti quanti alla festa di Valeria. Ci portiamo anche la macchina del libro filato. Ah, lui, lascia verde. Lascia verde. No, non mi interessano le feste così di compleanno, soprattutto delle colleghe di mia figlia. Non mi interessa. Non so se è più grande di Daria Blu. C'è anche una figlioletta comunque. E poi se mi dici già che c'è una figlioletta, bimbi e grulli ti ce li hanno tra tutti. Non è che lui ha calcolato il palco del marco, ma scherzavo, ci mancherebbe. Sai che a me piacciono comunque le donne mature, sicuramente più grandi di me, né più nemmeno come Chiara che ha, come si vede, 10 anni più di me. Vai, come le vai, 10 anni più di te. Chi è che vuole entrare? Hola. Hola. Hola. Senti, il bulldozer qua, cambio. Poi Massimiliano il bulldozer. C'è anche Daniele che è entrato assieme a te. Buonasera, cambio. Ciao dai, ciao a tutta la ruota. Qua dammi il controllo che sto lavorando questo radio, questo microfono, com'è? E come deve essere Massimiliano? C'è sempre lo stesso, una bomba. Super 5, un bel forte. Beh dai, la voce se sto provando. Allora, il microfono com'è? Devo abbassare o montare, com'è? Dimmi un po'. Leggermente, ma leggermente abbassare, un pelino. Così è a 7, vedi un po' qua. Basta luci. Si sente come il tramite 3, bom, bom, e non c'è niente da fare. Le radio quartate sono tutte così. Lo passo, lo passo. Cappa oggi, vedi. Cambio, quando schiaccio la portante, già lo fa, là. Ok, ho fatto l'ascolto, non so chi c'è, buonasera a tutti, a tutta la ruota, così non niente con nessuno. Avanti qua, per te, manda avanti dal culo, beh, non so chi c'è. Lupasso. Esabassi, Esabassi, è 9.30 qua Massimiliano, Esabassi. Tu puoi mi dare, puoi dare Martana da Via d'Italia, ma da lì no. Da lì è difficile. Massimiliano, ci sono io, Antonio Grotto e Daniele. Vai Daniele per Massimiliano. Ciao Massimiliano, ben sentito. Vai Antu. Stavo scherzando, siccome stasera non era in piccente, ho mollato la portata, ho sentito, lo passo. Massimiliano, andiamo in macchina, non vengono. Io l'ascolto un po' bassino, non so perché. No, ciambatte non funziona, io sciolti le ciambatte, non ne ho più usato ciambatte, io guarda, per carità. Oramai siamo tutto a, come si dice, con i salvavita qua, le ciambatte le usano quelli che non sanno cosa fare, possibilmente li comprano dai cinesi. Oh, Massimiliano. Non lo sento io, mio Claudio, ma quanto è veramente, io non ti sento. La gamba è colpa mia, dai, diglielo che già mi ha trinto. Ascolta, ma ricordati via, non lo so, portati un paio di palle, scusate il termine chiaro, ma tu ragazzi non porto anch'io. Ma scusa un attimo, invece di modulare con quel cicrafuso lì, perché non metti la 340, domanda? Come mandare a fare in quel paese? Me lo sto domandando anch'io, Cla, ecco, adesso non volevo prendere l'argomento, scusate se sono entrata, ma me lo sto domandando anch'io. Risposta, aspetta che non l'ho staccato, Il problema è questo, che un 140, come tu ben sai, necessita di un'alimentazione particolare, che in questo momento non ho, o meglio, non ho in due esemplari. Tu, per trasportare, caro amico mio, un alimentatore da un appartamento all'altro, non credo che sia una grande fatica, due. Uno lo lasci fisso lì, e quando ti sposti, ti porti appresso l'alimentatore, ma almeno ti sentiamo, grazie a Dio, veramente, io perché siamo vicini, ma il segnale è Nofre, tutto, è Santiago Nofre, dove pretende di arrivare, c'è un QRM 8, a Massimiliano che abita agli punti in quelle condizioni lì, avessi avuto un po' più di radio, ma sei talmente basso che è chiaro che la gente ha difficoltà ad ascoltarti, quindi secondo me il trasferimento alimentatore che poi io non ne ho, oltre la paletta, io non ne ho, altrimenti guarda, ti avrei dato un alimentatore dei miei, però il PS50 l'ho dato col 440, ho dato quasi la linea completa tranne la colonnina esterna, però io me la farei una spesuccia di 49 euro, 59 euro, ci sono quegli alimentatori della Proxel, 25 ampere che vanno molto bene, lo metti lì dove sei adesso, con 140 lo lasci fisso lì, anche col microfono normale, se non vuoi trasportare tutto, anche col microfono normale, ma almeno c'hai i fatti che ti consentono di andare un pochino più forte, secondo il mio punto di vista. Ragione, i fatti sono la cosa più importante, il problema è che io non ho soldi per comprare un altro alimentatore, capito? Sai benissimo quanto costa e io in questo momento sono sprovvisto di più soldi. Benissimo, ma me lo potevi dire, te lo compro io, ma qual è il problema? Poi quando prendi la pensione me ne ritorni, no? Pensione che ti diano domani stesso. No, già me lo prendo, sai che devo prendere quello della Proxel che mi hai detto, però voglio prendere quello da 45 ampere, quello da, mi sembra che così 108, c'è anche l'attacco della CMC, cari, se non sbaglio. Esatto, come quello che ha preso Mauro, infatti Mauro ce l'ha preso così da 40 ampere e a me mi ha dato quello piccolo da 25, anzi da 30 mi pare che sia, dove alimento solo esclusivamente le reti 950. Mentre gli altri radio sono alimentate con il PS50. Capito? Quindi immaginate tu quanti tu metti, ci può attaccare due radio a un alimentatore, ma senza ombra di dubbio. L'importante è che non fai appiccare. le orecchie, c'è un bel forte, lui per forza ti ascolta, lui ascolta benissimo perché non c'è un'antennina, non c'è un'antenna normale, però sta usando un baracchinetto di quelli talmente piccoli, no, che usa in macchina, che per la mandronia di no, lui ne ha, figurati che ne ha due di 140, non uno, ne ha due. Quindi quello che dicevo io, ne prende uno, uno, perché c'è a casa della ragazza, ne prende uno e quindi lo mette lì e alterna l'alimentatore momentaneamente, poi se lo compra e quindi fa una radio lì, una radio là, perché non è che non c'è ricezione, non c'è trasmissione, esce, quanti volte esce quella radio là tu? Forse gli erano aumentati, poi ho fatto, cioè, pure girare le cose, si è spaventato. Credo comunque 5-5 si riguarda, dai. Figurati tu, 5 watt, con la popolazione di Cesare, se non sei qua, abita, guarda, in linea d'aria non so quanto siamo, ma è a Luna e Sole, nella zona di Luna e Sole, capito, nella zona di Luna e Sole, mentre dalla parte di Galitalia, dove abita lui, lì esce molto forte, un bel. Ma qua lo sto ascoltando io, Santiago Nove, da Luna e Sole, quindi mi immagino Massimiliano come lo ascolti tu, praticamente niente. No, io non ascolto proprio zero, non ascolto per niente proprio, capito? Sento a te che parli di lui, ma io a lui non ascolto niente. Daniele, dove sei caduto nel coso? No, stavo facendo le cuffie, vai. Tanto male, siamo andati apposta. Sì, ma cosa hai detto? Ah, mi hai mandato. Cava. Ma dopo la leggo, dai. Sì, avete un amore, ti ho scritto. Bene, ma già lo sai che ti amo già. Già lo so, allora l'ovvio. Quello è Massimiliano, questo che c'era Daniele, se c'è bene la radio. Sempre vai in Sbarbiero. Sì, sì, va bene, va bene. Va benissimo anche quella di Daniele. Ok, allora io mi ascolto con questo vecchio batter. Guarda, il segnale qua c'è 9.10, parli in radio, adesso che stiamo ascoltando in cuffia, non capisco una mazza, diciamo, non proprio, ma... In che senso non capisci una mazza? Ma perché è troppo forte? Qua in cuffia è troppo forte, per ascoltarti devo togliere le cuffie, allora sì che riesco a capirti. Ascolta, abbassando così il microfono riesci a capirmi? Così ha migliorato tantissimo. Basta dirlo, così a 4 è l'amplificazione qua. Guarda, in cuffia ora come ora va di lusso, riesco a capirti molto meglio di prima. No, io ho chiesto controllo a Claudio, me l'ha fatto regolare così, capito? Era 7, adesso è a 4. A me non è più cuffie però, a me mi piace da combattimento la radio, ti ascolto bene anche così, ma per me non è più da combattimento. Aspetta, fai un passaggio adesso Massimiliano, che tolgo le cuffie. Ma aspetta, adesso così è a 4 perché tu in cuffia mi ascolti bene. Adesso sollevo un pochino, lo metto a 7 come mi ha detto, mi metto la cavia, rimbo. No, anche guarda, così sì, ti capisco, ripeto, meglio anche a 7 riesco a capirti, se però a 4 mi piace di più. Sembra una via di mezzo, non ci può essere, prova a 5. Allora guarda, così a metà, ricordi che sono a 50-60 cm al microfono. Giovanni, così è bellissima. Aspetta, ho sentito, se sta cupo, rifà passaggio Massimiliano. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, va bene anche così, dai. Hai gusta. Questo è un vecchio barattolo, forse più grande di noi anche. Già va bene. Io roba a risolvere qua la mettere in moto, Claudio già lo sa, tutto ciò è Antonio. Positivo, ma questo per le pagliacciate a me va bene, un apparecchio americano, questo non c'è un graffio, nuovo, perfetto, tutti gli strumenti funzionano bene. L'orologio va bene, tutti i pomelli al suo posto, il microfono originale, tutto Roger, no? Che apparato cazzo è? Te l'ho appena detto, è Ruiz, della marca della Rolls Royce. Ah, ce l'ho anch'io, lo faccio, quello quello da sinistra, i tre strumenti. Positivo, il mio modello è il 642. Sì, sì. Antonio, capito. Cosa, Massimilia? Che mi sto regolando l'orologio. Ah, tipo compreso. Facciamo qualcosa qua, se no è un casinotto. Ciao Daniele, dai, ciao Antonio, ciao Claudio e tutti i buoni ascoltori, dai, ci sentiamo, correti per me. Ciao Senegal, ben sentito, dai, buon proseguo, buon tutto. Ci ascoltiamo le prossime. Grande! Fatto la cama, ho fatto. sparare sabbia e tutto. Esiste, capito? Non esiste. Hai ragione, assolutamente. Guarda, ti ripeto, tutta la mia comprensione, vai avanti, non ti far fregare, assolutamente. Tanto adesso lunedì fate la denuncia, poi c'era l'ispettorato del lavoro per a controllare, io ho detto non voglio neanche che ci facciano nome, hai capito? Andate, controllate la gente che c'è in nero lì dentro. Pagava, riprendi qua, scusate un attimo che c'è una base. Sempre a disposizione, come puoi suoi passati, 9 giri più passati, vabbè, si è sempre perdonato perché si è impegnato al lavoro, ma quando mai non vai dei diminuti a passare a trovare. Così vedevi la casa nuova, l'abbiamo organizzato e tutto. Grazie per me, ho proposto in garage via Pasqua e mi serve la scala. Ogni volta ci passo davanti e mi dimentico. Sono andato a prendere la scatola alle 4.40 e non ho preso la scala. Non ci picchiassi mai ricordato. Vabbè, domani mi serve, ci passo, quando sto rientrando dal lavoro. E invece se io ci piazza le sedie, se andate a prendere il fresco. No, non abbiamo letta. Domenica mattina che faccio? Mamma mia. serve. Se funge, vabbè, tu ne manca molta molta roba, ne manca. Adesso vado a porto per ascoltare, va bene. Ciao, stai col cellulare ogni volta. Tutti si è perso veramente, ecco perché quel telefono Mi volevo ricordare un bel po' ecco, allora, un bel po'. E niente, no, poi mi piaceva mettere a posto, vedi, sì, mi gusta come idea, bisogna farlo, si fa quello c'è da comprare e lo si sistema. No, siamo tanto appoggio liberi la sera, non c'è problema. Come ti ho sistemato da poco uno, ma senti con un tabella. Ho comprato la polizia mantellata, perché l'originale era così, mantellata. E l'ho fatto prima tutti i coperchi, che poi ho cambiato delle lampadine, delle cosette, ma sono cazzate quelle, se c'era a fare roba che non funziona io la rovino con gli altri massimiliani. Capito? Però questa c'era così. Ma l'ho portato, mi sono pintato e l'ho fatto. Poi un altro mi ha portato uno strumento grande grande, che un loro mi trovate, metto di quelli enormi, che c'è lo strumento in pratica senza luce. E allora gli ho fatto tutta la... ho preso quelle lampadine piccoline, ne ho messo due, una a mano e una all'altra, ma sono tenuto bello. All'interno però ho smontato lo strumento, tutto, ho forato dentro, non si vede niente, tutto coperto, ho fatto uscire il filo dall'altra parte, con l'interruttorino, e lui quando c'è l'interruttore c'è la luce. Stai cose così già ammato un po' il tempo. Quindi lì se ce la mette lampadine dalle 11 stamattina, c'è pure un vecchio verniciare, mi porto la cassa al lavoro, le do una bella passata di spazzola di nuova e poi si dà il colore che tu vuoi, grigio chiaro, grigio scuro, nero, com'è l'originale. Ma non è come una radio, un baracchino come Cristiani, capito? Niente, poi quell'apparato c'ha una modifica, se ne va, boh, i canali che adesso non ricordo più quali se ne va, tu schiacci la manopola e è cambiato totalmente canale. Quello che cambia l'automatico, mi pare che qui c'ha 40 canali sopra e 40 sotto, c'è una modifica, perché se tu vai a vedere lo schema di quella radio lì, del DAC, è praticamente lo schema del coso. C'è la componentistica di quello base grande, adesso mi ricordo che marca sia, porca miseria, tipo il Sigma, una cosa del genere, una cosa del genere, che c'era lo stesso anche una volta. Ma io l'ho visto, ne ho un altro lui, bello, nuovo, nuovo, bello, infatti ho detto, se venire no, non lo gratta, e c'è il tane più tre, esce un bel bene, ho provato, esce un bel bene. Come c'è l'attacco a 4, quindi quando ne voglia che vieni qua lo porti e le diamo una sistemattina, almeno lo usi. E a te lo facciamo andare col microfono al tavolo, l'Intec, cosa è? L'M, che c'è anche l'Echo, preamplificato con l'Echo, l'M600, l'M900, una cosa del genere. L'M600 al tavolo ce l'ho anche io, ma se lo attacchi non faccio insieme a video, guarda, ma che stai modulando dentro la chiesa, il microfono breve, per carità, tucci, ce l'ho, ma infatti quello lì non serve a niente, lì ci vuole un tame più 3, un tame più 2, un salelta, vedi, microfoni così, si può provare il tame più 3, le salelta, no, non c'è problema, già ne abbiamo un microfono. E vedere quale si addice, perché RD, capito, la commutazione RD è anche quello, quindi contare più 3 secondo me ci dovrebbe comportare più o meno in queste condizioni, così dovrebbe lavorare così. Comunque tu quando ne hai voglia me lo dici, lo porti e si mette a posto la mia madre, non può dire più anche io, e se non si compra mi si mette grotte. Vabbè, te ne faccio questa cosa al volo, dai, che tra un secondo e arrivo. Vabbè, stiamo a prendere il caffè. Salutami a papà e a mamma. Grote. Sto parlando al telefono, sì. Non è possibile. No, ma non lo sai che questa è la casa del sindaco e quindi è sempre al telefono. Ma perché non lo seguite il telefono? Glielo fai spegnere a una certa ora. È allucinante, ti molla così, tu lo chiami, ti fa preoccupare, non risponde. ecco, perdonami, questa è la casa del presidente. È vero, è vero. Presidente, sapete, oramai c'ha tutti i pregi, difetti ne ha pochi. Ma diciamo che ci sono e non si vedono. Te lo passo un attimo che ha finito con la pasta. Va bene, va bene. Andalo a mangiare, poverino, ve l'ho visto da bianco bianco oggi. Ma di Roger, ma infatti devo andare a fare una carica batterie. Ci sentiamo fra 5 minuti esatti, una birretta e un panino. Una birretta e un panino, ho capito. Se continui così vedrai che fai la fine di molto troppo tu. Dai, sono qui in ascolto, quando avete terminato chiamatemi. Io ci sono rientrato. Ah, benissimo, mamma mia lontana. Il Grotte è andato a mangiare un po' di pasta, una bistecca, un panino e un bicchiere di birra. Vabbè, è andato a fare un po' di carica. Oh, iaia. Ma le foto con il Ferrari, viste la fisica? Sì, sì, sono entrato nel tuo... E le mie, le hai viste quelle della radio? Brava. Quelle le avevo viste. Adesso mi sono ricordato che l'ho portato qua il portatile, ci ha fatto spazio. Ehi, ehi, adesso mi ricordo del giorno, che ridere. A carità, non ho comprato da niente, cisci. Ma un altro giorno ho trovato il CD di Scarapiccara, che mi aveva scaricato un commissario di percorso. E eravamo io e Natalino, ci siamo risate da un giovato che io e Natalino eravamo a fare il secondo o terzo intermedio, è venuto con me. E c'avevo la macchina nuova Mariana, con l'antenna sopra la base magnetica, cofano aperto, e nel pannello di dietro c'erano le radio, ho portato il 707 K2G e poi l'altra base magnetica c'era il 140. Sì, e ogni volta che chiamavano che volevano i tempi, che poi a Natalino volevano un attimo mio. Mai se ne sono accorti, mai. Tu pensa che mi ha corretto quando siamo ritornati in l'anfiteatro chiamalo, è sceso bianco dalla macchina, bianco. E io mi immagino assolutamente non pigliare. Eravamo mentre abbiamo fatto il rettilineo, siamo partiti dall'anfiteatro verso l'uscita di ormai, c'è quel lungo rettilineo prima della NATO. Lui era dietro, era in quella nera, cazzo, quello che quel fatto ha fatto più di 2,95. Quando siamo andati a cagliare con la luce, sono raccontato tra, è partito dalla dopo le gallerie, quindi da dopo Bresci, il cuscino del sorpasso, si è uscito dalla cuscina del sorpasso all'ingresso di Fiore Monastir. Oh, yeah, cazzo allora. Un pazzo, non ce n'è per nessuno, si è camminato anche da luce, 2,80, 2,90. Io non facevo altro che vedere macchine fium. Allora non ce n'era di autovelox, c'è un razzo. Però no, siamo arrivati e non riuscivo a aprire lo sportello. Come diceva questa macchina, sono andato da qui, non mi pareva che stava anche a dove via. E invece si apriva una farfalla ai sportelli. Ma scusami, sono 30. queste macchine. Sono un bel base. Se ci mai stava venendo la disperazione, io penso a andare a casa di Bu. Giochiamoci un'ora. Un'ora, Bu. Io non ho più mai visto di niente che amano le luci. Sto facendo così nel sorpasso, tanto chi c'era? Non avevo potuto mettere a prezzo. Nessuno. Era sempre così nel sorpasso, senza prezzo, senza nulla. A luci spente. Non appeggiava più, e volevo solo la macchina sorpassare. Gli articolati sembravano caramelle. Ci sta un attimo adesso dal rimorchio con la macchina. Ehi, Maria, caro, io non tengo la macchina, ma con lui è molto bravo, è molto sicuro guidando, molto sicuro, perché è una vita lui che macchina ad alta velocità, non ce n'è per nessuno. Molto bravo, però cazzo, madonna, io vado piano. Carissimo, stiamo arrivando, sei più vicina. Sento. No, io a sentirlo anch'io sono forse qualche mese, forse, a vederlo non mi troppo, ma anche lui è sempre fuori impegnato, poi c'è questo bambino che è una cosa allucinante, guarda, è uno spettacolo a vederlo, ti porta allegria, lo vuoi, sta sempre ridendo, sta. Walter Junior. E niente. Ah, già, è tranquillo, è che anche lui ha impegnato un sacco di tempo. Qualche giorno fuori sempre nelle torrenti. Oh, già sta viaggiando anche lui, Non so se è rientrato alle ferie, credo di no, comunque, perché non lo sento neanche in radio. Era fuori all'estero, ma vabbè, se mi ricordo quel giorno, e se non mi la macchina, cos'era? 5.000, cos'era? 5.000 abiti nella Mercedes. Eia, mi sembra che era quella. Oh, mamma mia, un cambio automatico. Tanto come viaggiava. Io ho rimasto che stavo aiutando il fratello socio da stia facendo. Sinceramente ci sentiamo così poco, non so, vedi. Siamo sentiti, te l'ho detto, su 45 due o tre giorni fa. E stavo provando la radio, ma avevamo io, lui e Massimiliano. E Gigi non c'era, c'era anche Fossi. Perché io lì uso l'ARA 48, quello con l'Ecco. E quindi stavamo provando, poi stavamo facendo le comparazioni. E basta. Non lo so se in fine, se è fermo, non lo so, sinceramente non lo so. Non gliel'ho mai chiesto cosa, dove stava lavorando. Per il pentino è rimasto a uscire mi pare. E fratello c'è la pizzeria e andava lì. Poi non lo so. E niente, però io l'altro giorno e poi tra una cosa e l'altra mi è sfuggito veramente. Ti ho detto, poca radio sta facendo, ti ripeto, qualche volta entra a 45 ci sentiamo, oppure entra qua anche sul 10, sul 5, ma non lo so. Invece quello che non ho più sentito, Franco, non so se si è venuto la radio, se c'è ancora, almeno la radio farsi sentire, non l'ho più sentito. Tu, lo stesso un po'. Cara, cara, aspetta, sto guardando un po' di roba qua. Cosa lì c'è? Se c'è una comunicazione di servizio. Oh, ma no, Franco, quello stai pensando tu, Franco Delta. Non l'ho più sentito. Luca mi ha detto, ci ho venduto tutto. Ah, no, non lo faccio. Ho visto, aspetta, che per il computer, prima iniziazione d'estate forse l'ho visto, adesso maggio, giugno, cosa del genere. Mi giriva, io ho telefonato, ci siamo sentiti su Facebook, ho mandato un messaggio, mi ha risposto mentre era incasinato, se mi è passato a trovarmi, nulla. Infatti gli ho detto che sono compiuto un po' in avaria, abbiamo fatto degli aggiornamenti, tutte le cose, tu riposi ormai, altrettanto lui, niente, caput, morto. So che ha avuto problemi a casa, ho problemi di salute, però non è così che si risolvono i problemi. A volte da lui ci sono anche per parlare, ma lui si è proprio ritirato, capito? Proprio ritirato. Non so cosa sia successo, non lo so. So che si è venduto tutto quanto mi ha detto Luca, però non so se gli è rimasto un baracchino, fuori cosa, la macchina, qualcosa. Non te ne piacerà, ma non fare due chiacchiere, svagarsi, farsi due risate, niente, nulla, abbandonato tutto. Qualcosa sicuramente è successo. Ma mi dispiace che abbia venduto quelle due unità e non mi ha detto niente, non l'avevo preso io. Quelle due unità 711 811 che poi tra l'altro una era la mia 711, l'811 invece l'aveva comprata e le ha vendute, sono due unità uguali al 140, solo per fare una U e una U, cioè ce li ho e c'ho quelle da Lincoln mio 271 e 471 base, però se è piaciuto avere anche quelle invece ce le ha vendute. Colò. E a lui, ma che cazzo hai tu? Sto carica e sono qua per la maratona Teleton. Ma come ti guarda in gottitura lo mette un goccio, lo mette un mazzoni? Il cormorano? Non ho sentito a proposito, visto che l'hai fatta come battuta questo pomeriggio, ma è cosa? Un falchetto dov'è? Falchetto da pescare. Ecco perché mi serve la lampada. Ecco. Te l'ho detto anche a te, non te l'ho detto anche a te che andare a pescare. Che entravano le mattine, che intanto stanotte calmava, infatti. porti qui, se domani ci porta qualche polpetto, facciamo l'insalata. Aspetta, ma è dalla riva o dalla dal gommone? Col gommone, parlamenti. Fa di Roggero, ma è... dove devo andare? Non lo sai. Non lo so, non lo so, ma non siamo lontano, stanno lì sotto, sicuramente sotto Stintina, sotto quello di là. Perché se fossero andati a pescare dalla riva saremmo andati a trovarlo. Quello sì, saremmo andati sì a trovarlo, ma adesso non passate a prendere la linea, ci siamo andati. No, poi tu non puoi uscire, rimani per favore, che c'è policia da sopra, non stai sai che pesto lì. Che poi hai detto usciamo, usciamo, hai tirato uno sbaglio e ti rimanevi il microfono. No, no, mi fa così a me la stanchezza, ma poi vado a dormire non ho sonno. Anche ieri notte ero stanchissimo, volevo tornare al computer. Ho fatto se non una mezz'oretta di radio, tutti hanno chiuso, perché eravamo io, Fabrizio e Antonio mi pare, e Antonello, verso quest'ora, le 11, boh. Hanno chiuso, ho detto beh, ma avevo un po' di TV, e mi stavo ogni tanto cabuzzavo la grande, no? Ma la sassaresi. E invece sono andato con i carmi e niente. Parlando, parlando, una mamma si è fatta mezz'otto e mezza e poi ho preso sopra. Siamo usciti a prenderci un... a farci un berretto, non c'è problema. No, c'è chi era da solo, lei non va bene. Appena detto, se vuoi andare vai. Sì, sì. Se lui che mi vuole, così mi dice, dove stai andando, non ho capito bene. Una birretta, giustamente. No, ti sto tiro dicendo, guarda, io sono già in semi coma, quindi, ma se però possiamo prendere Daniele, gli facciamo fare quel giro famoso. Ma se sei in coma, Daniele è più in coma di te. Ora, era in giro dalle 6 e mezza stamattina, lavoro. Panificando magari trasportando a destra e a sinistra. Lì, ma il tallone non c'è il tallone? No, per quello ancora no. Sono bici, bici cadotti. E in quel posto è giovani, c'è la caccia e ciò, però la maggior parte da gente anziana. E infatti gli interventi tutti quelli sono. E tu volessi una misericordia? No, ero. Eri prima, adesso finalmente ce l'hai fatta. Finalmente ce l'hai fatta, e ora ti dicevo, abbi fede, e tu mi metti un messaggio, ci siamo, forse, forse, visto? Bisogna avere fede. Solo la fede non ci può aiutare. Sì, pare che mi sia piaciuto andarmene da lì, perché diciamo che non è stato lì, però, cioè, qua è tutta altra musica, altri servizi, altre cose. Chi non aveva la pila, non anche, ovvero stipendio, si andava a vedere il stipendio. No, lì era volontario, diciamo. Diciamo, era volontariato. Qua invece, essendo una cooperativa, è diverso. Vabbè, certo che sì, ci sono i fondi e quindi i stipendi arrivano. Sono contento. Avanti, Grode, Grode, cosa dice Policina? Stavo sentendo, non ho capito bene. Vero, no, per convincermi a rimanere qua è andato in cucina perché tutti il resto. Ah, ho capito, per rimanere lì, ho capito. Vedi, già è una cosa buona. Roger, la birra però è Drager, non è un gran cazzo. Drager? Ah, non hai Max, una bella corona fresca con limone. No, avrebbe preso la Tubor se ci fosse stato, ma poi tu con i sei della scuola che va presa con limone la corona. No, sinceramente io quando prendo la corona che poi la prendo sempre a piazzare i sedi lì. limone serve, siccome è una birra messicana, e là lì il limone viene messo in Messico nel collo della bottiglia per evitare che ci vadano le mosche, e quindi è esclusivamente qualcosa di fatto per ricordare il posto, non è vero, ma stiamo il vocabolario. Effetto, mettiamola così, utilizziamo questo termine, effetto esclusivamente, non è questo il termine, ma l'apropismo, però ti sto dicendo, la fetta di limone veniva messa esclusivamente per evitare che le mosche ci andassero sopra, e si è preso il vizio di infilare dentro il limone, chiaramente gli cambia il gusto, gli dà un gusto particolare, fa un po' cagare, perché ultimamente il limone con la pietra non ci sta proprio niente, però diciamo che la vera ragione era quella, è un effetto scenico. Adesso ho capito perché l'indizio di quando fanno la caccia aprono le cose e mettono le mucche per lucrarsi le mosche. Esatto. Se tu guardi in molte macellerie, nel banco frigo, nel banco della carne, c'è un limone tagliato a metà con dei chiudini di garofano infilati dentro. Sembra allontana le mosche. Ho capito. Perfettamente. Quindi la prossima volta mi mette limone la cosa, dico, a me la io di mocca non agio, quindi lascia perdere. Vai Daniele. Ma un secondo solo, perché se no mi faccio la pipì di mutare. Sarebbe la prima volta. Santa miseria. Con 3, 4, 6 finisce con 1, 6, 2. Negativo, non ce l'ho, però te lo puoi segnare qui, non ci sono problemi. 3, 8, 6, 23, 24, 3, 8. Sto cercando carta e penna, non c'ho il cellulare appresso. Sono arrivato a 338 di 32438. Ecco, team 6. Wind. Hey, 338 o 328 l'inizio? 38, 23, 24, 38. 338. Ma cioè, se qualcuno va a sentire, allora, ladies and gentlemen, the number of telephone of the Anthony Grode, Anthony Fox, is 3 3 8 2 3 2 0 4 3 8. Do you understand? Ecco, la scena, sì. Magari era meno veloce. Ascolta, già per il lavoro. Allora che? Cosa pretendi? Telefonatemi per il numero di fagioli che ci sono dentro la nel cestino. Indovinate il numero. Aspetta, chiamo, vediamo se indovino. Daniele. Chi è? Avanti. Ehia, Leoncino sono. Com'è che mi senti adesso? Ciao Leoncino, buonasera. 95 Radio 5, dai, buona. K. Grote. Ma qualcuno sta parlando sotto? Leoncino, è tu. Lino? Io sento la portante, ma c'è qualcuno sotto? Sono entrato, Giuseppe. Giuseppe. Claudio. Stai arrivando a sfondatura, sto scherzando, sei 9:20 perché ho attaccato anche l'altro di apparato, radio 5. Claudio. Giuseppe. Guarda nel tuo controllo, controllo base, come ti arrivo. A casa sì. Cappa. Cazzo, ti sento una bomba a casa. Ma con la stessa radio che usi in macchina, no? Negativo, negativo, un'altra è questa. Ecco, questa la radio è forte. Sì, Santiago Nova, radio 5 qua. Ma forse da Antonio arrivi di più forte, sei più vicino, vai a tu. Detto, 9:20 radio 5. Quello è un apparato, una bomba. Lo devi conoscere Claudio, chi è l'amico che me l'ha dato questo apparato, di sorso, equivale a Freccia Verde. Freccia Verde chi è, compare tuo fratello? Cappa. Lo conosco. È proprio lui che me l'ha dato questo apparato e volevo vedere come stava uscendo, capito? Benissimo, come ti arriva Giuseppe? 9:05, radio 5, perfettamente. Ok, grazie per i controlli, sono in ascolto, rimango in ascolto, dai. In arrow. Ah, la mia sembra quello, il bollettino era brigante. Sta giù per me, raga. Grazie. Cosa stai mangiando adesso, tu? Birretta. Adesso non so se rosicchiarmi il tappo, però vedo, dai. Io mi sto succhiando un cornetto. Bene, intanto il cono di sopra e se il cioccolato ti cade in terra. No, lo sto mantenendo con due dita. I diti sono maschili, diti, perché tu hai dito, quindi lo moltiplichi per due e sono diti. Non mi butti a me le dita. Diti, tu scusa dici, lo sposo, gli sposi, quindi il dito, gli diti. Ti ho sentito stasera facendo un diex in inglese. Ti sento. Il figlio della tiracca di Camboni. Perché no, non è vero, dai, da sombrammino. Sono un po' troppo veloce, però già va bene. Ma infatti lui si è sito, te l'ha detto. Continuava a ripeterti, again, again, e tu sì. You're in grande, io sono from Sardinia, avanti, io giù, tu la vedi, una motocicletta. È arrivato, no, again, veramente avrebbe dovuto dirmi è Nadar Moro, comunque. Ecco, è arrivato. Capo, è arrivato. Cava, aspetta che memorizziamo. Che comunque, sì, aspetta, non mi puoi correggere, quindi, direi, opla. Che tu dici a te? Ah, Marrano, già ti faccio... ti è uscita bene, però già te lo dico in verticale, pure dai che non è vero. Vabbè, poi prendi i colpi, eh? Così impari a chiedermi consigli. Grazie, che è morto. Chiara, ce l'ho mandi a letto? Ma già, io sono sdraiato. Scusa, io nel mio piccolo faccio collegamenti, mi faccio capire molto io, però certo che nella pronuncia prende dei grandi colpi. Ma negativo, non mi permetterei mai di criticare come sto facendo qui, sto esclusivamente criticando una cosa che è scritto che comunque va bene lo stesso, anzi è più mascola, capito? Però sei passato da essere dal migliore alla bestia. sì, è uno stronzo, perché ti ho detto a te, come si scrive, ha detto che tu con una H. Ah, perdonalo, perché in verità lui non sapeva come si scriveva, dico la verità, non la giuro, non lo sapeva. Hai capito? Cioè io chiedo a lui per essere tranquillo, per non fare brutte figure scrivendo, e lui mi fa scrivere stronzate, quindi la colpa di chi è la mia? No, negativo, a parte che non c'è la H, è una questione proprio di pronuncia, ma a prescindere da quello, è passato dal essere dal migliore alla bestia, che poi è più maschio secondo me, la serie The Best, The Best, Bea. Ah, ecco, perché l'ho scritto, adesso mi sto ricordando, perché ti ho detto con la H, e quindi l'ho messa prima, non ce n'è, invece di scrivere best, come si scrive è scritto beast, beast, beast, quindi best si scrive come lo pronuncio, beast significa la bestia. Vabbè, vuol dire che assomiglia a una bestia, la siamo tutti. Stronde, lo sparviero che cos'è? Claudio. Oh. Sai cosa c'ha questo apparecchio? C'ha AM e poi USB LSB. Ah, come questo che sto usando io, questo modello vecchio, cioè MFM, USB LSB. È K, e questo è non c'è bisogno neanche di alimentatore, capito? Va, è esattamente attaccata alla corrente. Ah, un base, come si chiama? Che marca è? La marca è WASHINGTON. L'ho visto in qualche vecchia radio rivista. È grande quanto è questo che c'ho io, quanto è Zodiac. Però quello ce l'ha mandato a terra, invece questo no. Bella radio, sì, sì. Mi ricordo che il compare tuo fratello ci aveva un base, però non mi ricordavo la marca. E questo, se qua io gli attacco un microfono da tavola, tipo il Tanne più 3, lo sai quanto spara? Già lo so, sì, già lo so. Il problema è che non si trovano il Tanne più 3. Il problema è quello, Giuseppe, ma io secondo me ci metterei anche un MB più 4, un MB più 5, che secondo gli apparati di quella generazione lì, nel senso che sono quartzati come questo sto usando io, escono molto bene. Scappa, e io sto usando, adesso sto usando le cose, un microfono, la ZC. M93. No, M93, sì, quello là Palmo. Lo vedevo a Fusaro. Va bene. Però se ci metti quello là di tavola, come diceva qualcuno, va bene. Break, ma se qualcuno che tu conosci, che conosciamo noi, riesce a procurarmene uno tramite, hai capito chi, no? O Claudio, glielo posso anche pagare e glielo piazziamo, hai capito? E adesso quando glielo chiediamo, non ti preoccupare. Io ne avevo uno, te ne più tre, l'ho dato a Luigi perché mi ha regalato un HB23. Registrato break, avanti Salvatore, mi scusa il telefono. Ciao amici, buonasera a tutti quanti, ben sentiti, sono la Torre da Questa. Ciao Claudio, buona telefonata, non so chi c'è in porta. Dovrebbe essere, ciao Salvatore, buonasera, ci dovrebbe essere Antonio Grode e Daniele. Ciao Antonio, ciao Daniele, ciao a tutti quanti, riprendi pure, così mi scrivo nel frattempo chi c'è, perché io inizio a perdere i colpi, mi dimentico poi i nomi. Scappa, Salvatore, una gentilezza, come ti sto arrivando alla tua coordinata casa, dai. Sentiamo nome, 9 Radio 5. Già va bene, già va bene, dai. Già sta pompando e sta uscendo bene, dai. Riprendi tu Antonio Grote, salutami la tua 25. Roger, ben sentito, ben ascoltato, Salvatore, 351. E ben arrivato in queste frequenze. Avanti Claudio Barbiero. Un minuto che sono al telefono, l'avete sentito, scusate, un secondo, c'è un Salvatore carissimo, un minuto sono da te. Riprendi Anto. Roger, aspetta un attimo, con questo microfono. Stavo dicendo, ma c'è anche Daniele. Ciao Salvatore, avete sentito? Un attimino Daniele, un attimino che sistemo il connettore di questo microfono. Cava, e allora Salvatore, che si dice? Per carità, guarda, una settimana da pazzi. Mi sono messo a sviluppare di corsa un software per costruire per lente, per elaborare determinati dati e insomma sono rimasto mattina e sera in ufficio. Sono rientrato stasera, sono rientrato che erano le 10:10, penso un po'. Ho fatto una media di 12-13 ore al giorno. Non vedevo l'ora che arrivasse venerdì, guarda. Mamma mia, mi ha detto, no, riposo per domenica a lunedì adesso. Sì, lunedì, noi lunedì vediamo un pochettino il risultato. Preparato tutto ciò che servirebbe poi agli altri colleghi come base per continuare questo determinato lavoro e quindi speriamo bene. Perché se poi tutto va bene la prossima settimana, io all'altra ancora, a settembre, me ne vado in ferie. Beato te, lavoro domani, dopodomani. Perché dopodomani? Io non conosco feste o roba del genere. Perché? Che lavoro fai? Diciamo, sono diviso arancione, dai. Ah, capo, ho capito. Diciamo che porta più morti che vivi, Salvatò. Scusa. Vero, dai. Non proprio, là. Vabbè. Siamo lì, Moribondi. Ciappa. Per carità, a tempi nostri, quando lo facevo io, diciamo che i pazienti arrivavano più sani che morti, anzi, viceversa. No, vabbè, un altro tempo, ciao, da queste cose ci sono adesso, diciamo. Ciao, Daniele. Dimmi. Tu l'hai conosciuto il 238? Ce l'ho presente, sì, dalla FIA. Io quello lì l'ho guidato. Allora, ti ricordi quelle piogge che facevano e allagavano tutte le strade? Cava. Beh, io un giorno mi chiamano d'emergenza a Tisci, c'avevo l'unica macchina che era a disposizione, era 238. Adesso prendiamo, partiamo. Cazzo, per non fare il giro dall'altra parte, sono passato proprio dove c'era la portaga, come a sirena accese, cazzo, faccio in mezzo a quella cosa, lì andando per tra la ditti, quella zona lì, cazzo, mi si blocca cazzo del 238 e sento cazzo si spegne il 238, cazzo, in mezzo alla strada, cazzo, guarda, non sapevamo come cavolo uscire, poi ci hanno ci hanno trainato, una macchina ci ha trainato, ha cazzo il colmo, cazzo, guarda, in mezzo all'acqua, con quella pioggia, per carità. Oh, mamma mia, dai. Erano altri tempi, Daniele, erano altri tempi, cazzo, con quell'ambulanza, oh, yeah. Abbiamo avuto il Peugeot, poi abbiamo avuto anche lo squalo a causa di ambulanza, per carità. Lo squalo la Citroen. Appa. Ma sai che l'altro giorno, girando, su, compra subito, mi sembra, ne stavo venendo una di quelle. E dove? Se non lo ricordo, tu vai, vai su comprasubito.it e ce n'è una che stavo venendo, bianca. Cappa. Quanto ne vogliono, lo sai? No, perché l'ho visto di sfuggita, perché poi sono andato via e loro stavano continuando a guardarsela. E cappa, là. Quelle sono macchine che non ne fanno più, sono macchine resistenti, cazzo, un capo ce la fai a fondere quella macchina, Fa una certa impressione vederla, Cappa, riprendi tu, salvato, dai, sono qua a forza di parlare di mezzi di soccorso, cazzo, non ne appiniamo più. Cappa. Mi ha fatto tornare in mente che quando io ero a Roma, tanti anni fa, che studiavo, c'era questo compagno di scuola che aveva il DS della Citroen, no? Lo zio era uno dei pochi fortunati possessori in tutta Italia di una versione Citroen Maserati, che fecero una tiratura abbastanza limitata, e lui era uno dei pochissimi in Italia ad averlo, questo modello stranissimo che era uscito negli anni 70. Papà, erano altri tempi, sabato, allora, ne ho guidato di ambulanza, ho guidato il Ducato, ho guidato il Maggiolone, avevamo il Maggiolone, poi abbiamo guidato lo Squalo, poi cosa c'era? C'era anche una... aspetta che... cazzo si chiama la macchina? Sempre ambulanza... il... vabbè, non mi viene il nome adesso, vediamo un po', ma non me lo ricordo, te lo dico. Antonio Grotte. Sono presente e attento. Ti volevo dire una cosa, la prima settimana che spero secondo le previsioni che sia un po' più libera, se vuoi ti posso preparare un DVD con tutto quanto quel software di cui ti ho parlato e trovo il modo di casomai di lasciartelo in un posto dove tu possa poi andare a prendertelo se vuoi. Fabio Roger, guarda, mi faresti una signora cortesia, anche perché mi hai ricordato che ti dovevo appunto contattare per questa cosa, nel senso che non riesco a caricare, ho una serie di problemi, che poi magari quando ci sentiamo e abbiamo un attimino, cioè c'è meno gente in ruota, ti denuncio. E uno di questi è quello di avere una connessione davvero molto lenta, che quindi non mi ha permesso già dall'inizio di scaricare il primo programma che era... non riesco a trovarlo. Forse WAMP. WAMP. Sì, WAMP, sì. Ecco, poi vabbè, non c'è problema. Non c'è problema. Se come dovrebbe essere, lo spero, ma come dovrebbe essere, diciamo. La prossima settimana, appena verifico che sono più libero e che tutto sta andando bene, ti organizzo un DVD. Se domani ci metto dentro anche qualche file di testo che ti può servire per, come istruzioni di massima per poter far partire il tutto. E niente, poi casomai per radio oppure a quell'indirizzo mail che mi hai dato, ti lascio le istruzioni dove poterlo andare a recuperare. Guarda, assolutamente, dopodiché al limite ci sentiamo via Skype e un attimino, se non hai problemi, mi guidi. Sì, o più agevolmente, guarda, ripeto, con Teamweaver o con Ultra VNC, cioè questi software di controllo remoto, così almeno ci possiamo sentire in con la radio e fare il lavoro direttamente sul tuo PC. Assolutamente sì, tanto guarda, non ci sono arrivato, adesso non mi ricordavo appunto che c'era il controllo remoto con Teamweaver. Dopodiché sì, se lo facciamo attraverso radio almeno la cosa è anche più veloce, nel senso che non mi rallenta il computer andando su Skype. Sì, infatti. Cosa che ti volevo dire, ma Skype lo utilizzi anche per fare videoconferenza? Sì, perché? Beh, ricordati che c'è anche un altro strumento che ha performance addirittura per alcuni dei versi migliori di Skype, è OVU. Non l'ho utilizzato mai. OVU è un software che ad esempio io utilizzo regolarmente quando devo organizzare delle videoconferenze per l'ente. La bontà di questo strumento intanto è quella che accedi a dei server che sono molto meno intasati, perché è un prodotto utilizzato di meno, anche perché diciamo che è più recente rispetto a Skype, però la contropartita è che hai molto più banda a disposizione, per cui hai delle connessioni con un flusso audio-video è veramente notevole, e quindi questo lo fa preferire sotto questo punto di vista a Skype. Poi per poterlo utilizzare non hai neanche bisogno di dover installare tutta l'ambaradan, perché è sufficiente che uno ti mandi il link della stanza virtuale che è stata aperta e tu, cliccando con un browser qualsiasi, hai la possibilità di accedere. Comunque non stressiamo agli altri. Rilanciamo a Claudio, si è messo la telefonata. Sì, tutto fatto, ciao, sono tornato di nuovo, buonasera, ben sentito. Ok, no, interessante questo discorso, vedi, a volte interessano anche a me questi discorsi, perché io di computer sinceramente quelle poche cose che so fare per lavoro, per necessità così mia personale, ma sto ascoltando, interessante. Io ad esempio non riesco a leggere tanto che cos'è, non mi ricordo neanche. Non riesci a leggere che cosa? Allora che mi mandano, insomma, non riesco a vedere. No, non ha scaricato il software Acrobat Rear, per cui non direi che chi è. Certo, ma salvato. Kappa, ho registrato. Sì, immaginavo che potesse essere per quello. Poi purtroppo anche molti browser, vedi, ti stanno obbligando a fare anche degli aggiornamenti abbastanza con un certo ritmo, per cui puoi avere anche dei problemi casomai con il multimediale, non so, perché hai bisogno di fare l'aggiornamento o di Silverlight per tutti quanti quelli che sono i flussi audio video che casomai trovi veicolato nel sito della RAI, oppure i vari flash player, oppure altri player proprio per visualizzare contenuti audio e video di YouTube, eccetera, eccetera, e un po' ci si perde però ha preso a queste cose. Tanto è vero che spesso mi capita quando accendo uno dei miei PC che come l'Angel Browser mi chiede l'aggiornamento di 50.000 cose, perché nel frattempo sono state rilasciate nuove release ed è insomma, là, alla fine è veramente una, è abbastanza normale che uno non abbia qualche aggiornamento che gli permetta di far funzionare al meglio le cose, o di visualizzare o leggere qualche documento. Comunque a tutti quanti vi ricordo che eventualmente c'è sempre lo strumento di OpenOffice che è gratuito e che vi permette di poter armeggiare tranquillamente con la maggior parte dei file, testo, database, fogli elettronici e presentazioni, senza dover necessariamente andare a cercarvi programmi piratati dei pacchetti Microsoft, in questo inciso. Detto ciò, Daniele, ma tu che nominativo hai? In carina non ne ho io. Papà, come mai allora? Io ne avevo uno tanti anni fa e poi chissà se riesco ad avere questo benedetto patentino. O qua, facciamo un sondaggio per vedere qual è il miglior nominativo che mi volete affibbiare. Non lo so, io qualcuno lo battezzai negli anni passati, adesso non lo so, di solito ci chiamiamo tutti per nome, ma vabbè, il mio lo sapete, io da quando sono entrato in radio è stato sempre quello, e quello è, poi è chiaro che i nominativi sono un po' appropriati anche. Dipende, qualcuno piace metterselo da solo, eccetera, eccetera. Ma me lo auguro, ci vai anche tu a ottobre, quindi? Dunque, un nominativo che ti starebbe bene sarebbe la forma elementare, cioè il Salvatore Bai. Che tristezza. Gabyte. Megabyte. Byte. Sento con il mouse. Volungo. Gigabyte, terabyte. Ma che cosa? Ma che byte stai dicendo? Passo. Poi guarda, sono sciolto. Oggi è arrivato a un certo punto, contentissimo, erano circa le 8 di stasera già. Oh, cavolo, ho svoltato finalmente, sono riuscito a trasferire tutti quanti questi pacchetti in un fatto poi un'interfaccia per trasferire praticamente dei dati in un foglio di Excel, no? Per poterlo poi dare la prossima settimana questi dati di ausilio ai miei colleghi. Vado a vedere queste stringhe e nell'esportazione a proposito di byte e non c'era alla fine di ogni parola una sorta di quadratino che non era un carattere, era praticamente una traduzione grafica di un comando che veniva dato nell'esportazione e veniva accodata a tutti quanti questi nomi. Detto, no, non è possibile, questo da dove cacchio ne è uscito. A proposito di byte e di bit mal digeriti, oi, caro Antonio Grosso, nominativo per Salvatore si può dare, cla, volpe bianca. Noi di volpe ne abbiamo già tante, c'è Vittorio Volpe, c'è Grosso che vuol dire volpe, volpe bianca, non lo so, potrebbe anche andare. Senti, Leoncino, ti vuole battezzare Salvatore? Sai Giuseppe, tanti anni fa, quando modulavo, nel 91, nel 92, usavo cercavo un... il mio nominativo era Momo. Sai la marca dei volantini delle auto? Cappa, che conosco abbastanza bene. Allora, io ti posso dire, quando sono entrato io a modulare, io entravo con tre nominativi. Allora, uno era Leoncino, l'altro era Topolino Bianco e l'altro Tartaruga. E perché tre, a seconda del giorno della settimana? No, perché volevo vedere qual era che mi stava, mi piaceva di più, capito? Poi mi sono lasciato da quando sono entrato in frequenza, Leoncino. E mi sa che era quello più serio di nominativo. E Claudio ne sa qualcosa, quando sei, dice, ma che cazzo è questo Topolino Bianco? Cazzo, allora, cazzo, adesso ti pongo la trappola, cazzo, ti catturo io. Bei tempi che furono. Allora, riprendo io là che vi saluto. Che adesso vado a riflettere un po'. Capa di Roger, Daniele, e a te che nome un attimo ti possiamo aggiudicare, Daniele, a te ti possiamo... Daniele, cosa gli possiamo dare a questo? Fammi pensare e poi te lo dico. Mia te mi chiama Danny Boy. No, ti possiamo dare il nominativo di coso, di quello del giornalino, tipo Zago, oppure Alandon. Piace, Daniele, Alandon. Oh, yeah. Dai, ci devo pensare. Che pensaci, oppure Zago. Addio Zago, c'era un mago con la faccia blu. Oh, un attimo di bianco, c'è qualcuno che chiama. Ehi, un attimo. Ciao Domenico, dove sei? Forse non ti ascoltano gli altri, dove sei? Dove sei? Stai salendo? Quello che non ti ascoltano, c'è Domenico Tardanetto che sta rientrando da Olbia. Sente. A me mi ha mosso lo smitter sino a un Santiago di 3, ma è incomprensibile. E tu Daniele non lo occupi? No, relativo, salutalo. Il Grode, tu lo senti a Domenico? Sento che modula, ma non capisco cosa dice. Tu, Leoncino, lo senti? Noi... qua tutti dormono, non ti sente nessuno. Sto fuori adesso. Allora, dai che chiudo, ci sentiamo domani, dai, se coincide. Avete sentito che ho ascoltato 7351, buon QRT e buon 144 quando lo fai, ciao. Ragazzi, dai, salutoni, ci fa a tutti, buon proseguimento, ciao. Ciao Daniele, ciao. Ma il segnale che hai a moduli qui vicino a me è zona Cappuccini? Io sono zona Via d'Italia. Come non detto. Quindi dalle parti di Antonio. Dai, io vicino all'antenna. Basta, quindi dall'altra parte. Come non detto. Ciao, buon tutto allora. Buon proseguimento di serata in un letto. Meritato. Ciao, a risentirci alle prossime. Domenico, là, digli che lo stavo tirando fuori, devi venire avanti. Ehi, ciao Dani, alle prossimine. Dai, Domi, ti lascio in compagnia di Salvatore, Antonio, tanto ti stai avvicinando, sei già a provare. C'è anche Giuseppe Leoncino, io spengo lo stesso. E qua sono tutti a nanno, altrimenti tocca stare con la porta chiusa e c'è caldo. Signori, un cordiale saluto a tutti, grazie del QSO. Ciao Salvatore, ciao Leoncino, ciao Antonio saluta Apollicina. Ciao nuovamente Daniele, ciao Domenico. Domenico, ti rimetto il microfono, vediamo se ti ascoltano, ma appena si inizia un attivo ti dovrebbero sentire. Io spengo, almeno la nanna, ci sentiamo domani. Anto, domani ci sentiamo per telefono, ok? In ogni caso, vabbè, ci sentiamo per telefono, in ogni caso sappi che l'appuntamento qua è alle 8. Poi se volete venire prima non c'è un problema, io prima delle 8 intanto non ci sono. Ciao a tutti, buonanotte. Domenico, a te il microfono. Roger, Domenico, ben sentito, ben ascoltato finalmente da questa parte in grotte. Guarda se riesci a tirarmi fuori, comunque fammi salutare prima la torre di controllo. 7351, ben sentito, ben ascoltato, grazie per il questo di stasera. Buon viaggio per domani mattina, non ti dico buon trabacco, quindi buon QRT e 144 quando lo farai. Avanti Domenico, se riesci ad ascoltarmi, rilancia per Salvatore. Ciao maestro, ti hai ascoltato molto chiaro, guardi, la mia da staccare, ci ha ascoltato molto chiaro. Quindi tu Salvatore, con la buonasera. Ciao, finalmente riesco a sentirti, una radio di Trema, piano piano sta migliorando. Ciao Domenico, per la prima volta, ben sentito. Claudio, carissimo, buon riposo, mi sembra che siano le migliori parole che possa sentire a quest'ora della notte. Buon riposo e buon tutto, grazie di questo per il momento. Alle prossime. Ciao, arrivederci. Ciao a tutti, grazie a voi, buonanotte, ciao a me, ci sentiamo domani, ciao a tutti, buonanotte. Ti porti bene nell'omì? Ma sì, che roba no. Che fare? Non ti porto con la sierra di Antonello Barracuda, che ti ascolto adesso. No, magari passo da lui e me ne faccio dare un litro, ragazzi. E c'è buono quello, non ti preoccupare. Io me l'ho ciullato tutto, mi è rimasto il fiasco vuoto. Va bene, dai, buonanotte di nuovo, avanti dove ci mi ascolti con tre parti. Giorgio, Domenico, sei un attimino in una zona negativa di nuovo, comunque ti stai avvicinando, ma che cos'è, fine trabacco oppure devi sganciare e riagganciare? Roger, ma sei leggero? Di Roger, da dove stai arrivando? Da Olbia? Ti stava? Negativa, riprendi Bobore. E cappa. E Giuseppe, dove sei andato a dormire? No, sono qua Salvatore, sto ascoltando. Volevo salutare a Domenico Tardanetto, che non lo copio, però gli faccio i miei saluti. Copia. Attenzione Domenico, sei in una zona negativa, ho capito anche dove c'è il sottopasso. Quindi ti manca adesso un'antenna, la stazione è a bomba. Cappa. Piano piano, non ti preoccupare che anche quella gli arriva piano piano. Lascia perdere. Certo, da nervoso a casa mi è venuta anche mal di testa, Otto. Guarda, già lo sai che le cose buone come le cose cattive tornano indietro. Vedrai, che secondo me ti farà il dubbio dei soldi adesso. E se ti chiama l'ispettorato del lavoro, vedrai cosa gli succede, cosa gli succede. Beh, io voglio che lo tangano, almeno per imparare, non per altro no, per imparare un po' di educazione, hai capito? Che la gente quando la comanda deve essere anche in grado di poterla ricambiare. Certo, ma poi il lavoro, ti ripeto, un lavoro fra l'altro neanche dove stai seduto a berti un cocktail, stiamo parlando di un lavoro di fatica, quindi sicuramente. Infatti 8 ore sotto il sole, senza bere, vabbè che l'acqua me la portavo io da casa, senza bere un goccio d'acqua, a sparare sabbia e togliere tutta quella cosa là e poi raccogliere tutta quanta la roba che c'era, sai che sotto il sole poi ti ammazza. Una o due volte sono riuscito a cavarmela, però la terza volta cazzo ho dovuto smettere perché cazzo mi stavo sentendo male. Capita. Salvato. E K. Ascolto, ascolto. Queste sono situazioni. Pensa Giuseppe che io quando io faccio anche attività sindacale nell'ente dove lavoro, però una cosa che ho sempre consigliato a tutti quanti i miei colleghi è sempre stata questa: nel momento in cui una persona vede che sono proprio lesi platealmente i propri diritti, è inutile che cerchi strade di accomodamento, far capire che è in disagio e che deve, che qualcuno si deve prendere a cuore la sua situazione per risolvergliela, eccetera, eccetera. Se uno ha carte in regola, però comunque carte, e quindi significa anche situazioni dove uno è foderato da un punto di vista della possibile diciamo non buona riuscita del contenzioso, comunque è meglio che piazzi una buona causa legale per ottenere soddisfazione, perché sennò altrimenti da parte di troppi datori di lavoro c'è la convinzione di riuscire dopo un po' che si instaurano determinati rapporti, c'è la convinzione di diventare quasi degli intoccabili, che riescono a fare di tutto e che mai nessuno gli farà casini, eccetera, eccetera. Io ricordo quando cambiò l'amministrazione nostra, il primo documento sindacale che gli ho fatto pervenire al nostro presidente fu una lettera di conciliazione all'ufficio provinciale del lavoro, perché gli stavo facendo causa. Fece lo spallucce, gli piazzò una causa durata 4 anni, però se ne sono leccati le ferite, gli ho fatto un mazzo tanto, perché comunque alla fine, dopo le parole, è bene che uno la bastonata la dia, però devi essere sicuro quando prendi la mazza in mano che la bastonata la prenda la persona a quale gliela vuoi dare e non che ti ritorni in testa, se non sono dolori. Sì, va bene, d'accordo con te Salvatore, d'accordo con te. Allora io sono 6 stagioni che faccio lo stesso lavoro, non mi ha mai assicurato, mai, io non posso dire che gli altri anni non me li ha dati sempre i soldi, me li ha sempre dati, questo lo diciamo, la verità, me li ha sempre dati, però sono 6 anni che io faccio la stagione al stesso posto e non mi ha mai assicurato, capito? Mi diceva sempre che mi assicurava e non ho avuto mai qualcosa di assicurazione. Io, essendo qui adesso, lunedì, vado all'ispettorato del lavoro, lo dico a chi devo dire, a chi mi devo rivolgere, a una persona che diciamo che lì dentro è un mezzo parente mio pure, sarebbe cugino di terzo grado di mio padre, che è vice direttore dell'ispettorato del lavoro. Dunque parlo con lui e sento cosa mi dice. Poi, in base a quello che mi dice lui, io faccio. Punto e basta. No, guarda, è gravissimo, Guarda che è gravissimo, perché non esiste. Non esiste. Oggi come oggi è fondamentale per tutti i lavoratori avere una copertura assicurativa, fondamentale, anche perché in ogni caso poi questo ha tutta una serie di risvolti nelle retribuzioni, negli accantonamenti, ai fini pensionistici, TFR, insomma mille cose. La posizione assicurativa è purtroppo una cosa che spesso in tanti, preferendo il denaro maggiore alla mano, tendono a trascurare. tantissime sono esempi, i casi delle colf, no? Che in casa le collaboratrici domestiche tendono a per guadagnare un euro in più, preferiscono rischiare loro e il padrone di casa nel non fare i versamenti previdenziali. Sono cose che sono allucinanti e l'Italia è piena purtroppo di casi, e li leggiamo anche sui giornali, di casi quando in assenza di una copertura del genere poi i lavoratori della famiglia, che spesso sono i maschietti, si trovano in seri guai e non hanno poi di che continuare a far sostentare la propria famiglia quando succedono delle disgrazie e quant'altro. E queste sono cose che non sono accettabili minimamente, per cui se hai questa possibilità, sei un vettore che sia mezzo parente, comunque una persona che la prende però seriamente come va presa, perché guarda che io ti dico una cosa che era scandalosa a suo tempo, qualcosa come 17 anni fa, 17 anni fa c'erano dei colleghi che avevano vantavano determinati inquadramenti, e io dissi a questi colleghi: guardate che se avete le carte in regola come mi state dicendo che le avete, andate da un avvocato serio, lasciate perdere avvocati di sindacati o di altro, andate da un avvocato serio e piazzate la grana, se no altrimenti non ne cavate niente. Beh, e cosa hanno fatto? Erano andati dal classico amico, quello che ti dice non ti preoccupare, ci penso io, eccetera eccetera, gli diedero praticamente un intero gruppo di colleghi tutte quante le carte, quindi le fette giustificative, che quando si dice carta canta è anche perché in casi di contenziosi nel mercato del lavoro si tende poi ad avere da parte del giudice la conferma con atti che siano quantificabili, leggibili, che riportino determinate situazioni. Beh, diedero tutte quante questa documentazione cartacea e venne stranamente e inspiegabilmente persa, una causa che era praticamente vinta. Sono riusciti, grazie a un ennesimo sollecito che questa volta abbiamo fatto come rappresentanti sindacali, sono riusciti a ottenere quello che gli spettava 17 anni fa, a ottobre dello scorso anno. Papà, sabato. No, per dirti, adesso c'è già una causa con un collega che ha lavorato con me, che gli ha fatto causa, e non è che ci ha messo un avvocato picco pallino, è un avvocato civile, e che ti posso fare anche il nome, Sergio Meria, e già tu conosci, no? Adesso, adesso a ottobre, c'è la causa contro di lui, hai capito? Contro il mio ex principale. Adesso voglio vedere come va a finire. Secondo come va a finire, io vado da lui, perché tramite un'altra persona lo conosce abbastanza bene, io ne parlo con lui e vediamo cosa, hai capito, cosa mi dice l'avvocato civile, chiederà qualcosa giusto per aprire la pratica, saranno 200, 300 euro, non lo so, o 500, quello che è, però io sta tranquillo che io a lui gliene faccio cagare sino all'ultimo centesimo. Guarda Giuseppe, ti dico questo, ma guarda, te lo sto consigliando come se fossi una delle persone che si conoscono da una vita. Ricordati, quando inizi cause legali, la documentazione che tu produci, ricordati di averne sempre una copia tu e nei limiti del possibile dai delle copie. Non metterti a dare mai degli originali o quant'altro, anche perché comunque per istruire la pratica gli avvocati hanno bisogno di documentazione per farsi un'idea e per fare un primo schema, per tracciare una strada di difesa o di accusa a seconda dei casi. ma non la tua documentazione, ricordati che deve essere preziosa come la cosa più importante che hai in casa, perché persa quella viene perso l'anello di congiunzione con una determinata realtà, che è poi la realtà che uno sta cercando di mettere alla luce e di che gli permetterebbe di fargli ottenere qualche cosa. Quindi mi raccomando. Capa, ti ringrazio per il consiglio. No, io ho tutte quante le carte in regola, le originali ce le ho qua nella cartella. Io all'avvocato ho fatto le fotocopie, capito? Io ho le fotocopie e consegno le fotocopie, le originali ce le ho io personalmente e non le darò mai a nessuno, capito? Questo, io ho cose qua nella cartella che lui, Marco, se le sogna tutte le cose, perché una copia va, quello che io firmavo per ricevere lo stipendio, una copia ce l'ha lui e una copia ce l'ho io. E poi abbiamo fatto, io ho anche, e ti dico altro, ho anche la cartella fatta dal commercialista, mi sono messo anche il commercialista alle spese mie, capito? Ho salvato, mi hanno fatto tutti i conti, dice qua ti deve dare tutto e tutto devi prendere, capito? Queste sono le cose che mi ha dato i fogli il commercialista che ho io, mio personale fiducia. Ho capito. Comunque niente, perché questa serie dei documenti, guarda, è fondamentale. È una causa che ho fatto io, vabbè, io avevo una causa per la mia natura era comunque una natura prettamente informatica, per cui in realtà i miei punti di forza erano i codici sorgenti del mio stesso lavoro, quindi i codici sorgenti è come in sostanza la matrice di una che può avere la zecca dello Stato della serie. E tu dici che ufficialmente stanno fini i soldi, fammi vedere la tua matrice, ecco. Parole povere, se uno non ha le matrici dei codici sorgenti, che quindi sono i codici sorgenti, è difficile che possa dimostrare i diritti d'autore, ecco, le royalty d'autore sul prodotto casomai oggetto del contender. Però è stato fondamentale anche nel mio caso il fatto che comunque ho avuto un rapporto particolarmente stretto con il mio avvocato, dove continuamente io gli chiedevo di visionare quelle che erano le sue relazioni su tutta la vicenda. Questo perché? Perché soprattutto il primo passo, quando soprattutto nelle cause del lavoro questo accade, quando il giudice deve già vedere se è legittima la richiesta da parte del contendente, di uno degli attori, in questo caso chi vuole ottenere una soddisfazione, di un riconoscimento, è fondamentale che parta bene la causa. Parta bene, che quindi le cose siano scritte in maniera corretta e che i punti di forza siano veramente dei punti di forza e non degli accenni. Perché così come possono partire bene, possono anche franare malamente. E sempre nel posto dove lavoro io, famosissima è stata una causa, una sorta quasi di class action portata avanti da alcuni quadri. Quindi stiamo parlando già di impiegati di un certo livello, che però la causa fu talmente impostata male che loro perdettero la grande chance di vedersi riconosciuti circa 10 anni di arretrati come quadro. E non erano pochi. Questo perché? Perché è imbastita male sin dall'inizio. Facciamo riprendere a Antonio Grotta, se c'è, se no chiudiamo e ce la risentiamo domani, dai. Antonio, ci sei? Stavo ascoltando con interesse. assolutamente, mi sono erudito in merito. Sì, sì, no, c'ha ragione Salvatore, prima di fare questa cosa bisogna avere tutte quante le cose in regola e tutto quanto, sì. Adesso, io lunedì faccio questa questione qua, devo fare un'altra cosa prima di fare questa cosa, devo risolvere questa questione, poi parlerò con questo mio mezzo parente e poi andrò dalla mia avvocatessa che abbiamo avuto altre storie che qua non ti possono elencare, dai. E abbiamo vinto la causa e tutto quanto e metterò mano lì e poi si andrà in tribunale con tutti quanti i documenti e poi vediamo chi la dura la vince. Sì, ma infatti ti conviene mettere tutto in mano a lei, soprattutto se è dura. Sì, sì, guarda, la mia avvocatessa c'ha lo studio in Viale Dante, 61B, dunque si chiama, te lo posso anche dire il nome, Antonella Spano, dunque è una delle migliori avvocati che io ho avuto, ma ha fatto delle cose cortesie proprio, mi ha risolto dei problemi che nessun altro me potrebbe risolvere, capito? No, ma l'ho già sentita, brava, so che è brava. Sì, appunto perciò adesso do tutto in mano a lei e mi dirà lei cosa, cioè, di fare, andiamo direttamente a fare causa, basta. Ormai sono 6 anni che io faccio questa storia qua e 6 anni mi sto sentendo di essere preso per i fondelli e mai versato un contributo, capito? Non mi ha mai assicurato. Dunque, non ho capito perché non gliela devo far pagare io a questo signore qua. Sì, hai ragione. Lo stai facendo, ha ragione, guarda. Fai bene, no? Hai fatto male a non farlo più. Ti prendi adesso. Ma Giuseppe, comunque ricordiamoci anche una cosa, nell'ambiente degli avvocati, anche gli avvocati, anche se parliamo sempre di cause del lavoro, per cui sembra che sia una branca ben definita, in realtà ho notato che anche gli avvocati tendono comunque ad avere delle specializzazioni, si affinano meglio nel curare determinate cause in determinati ambienti di lavoro piuttosto che in altri, quindi ci sono quelli che sono tendono ad esempio ad avere una valida esperienza in quello che è gli enti pubblici, in l'ambito degli enti pubblici, quell'altro in alcuni enti locali, quegli altri imprese, capito, eccetera, eccetera, eccetera. È importante comunque avere poi soprattutto la certezza che delle analogie possano essere immediatamente fatte con cause già vinte da parte dello stesso legale rispetto ad esempio all'analogia della tua di situazione che hai intenzione di portare avanti. E quello è fondamentale, quello è fondamentale. Fermo restando che poi questa, per quel poco che ho potuto capire del tuo caso, è una situazione che comunque grida allo scandalo. Sì, va bene, Salvato, ma allora questa storia qua è già, sono già 6 anni. Io ne avevo già parlato con la mia avvocatessa, le ha mandato una lettera di partecipazione, senti bene, di partecipazione in cui c'è il tempo, di stabilito da me e da lei non sarebbe stato rispettato, sarebbe passato per via legale, capito? Direttamente in tribunale, capito? E gli ho detto, aspetta un attimo, ho detto Antonetto, verrai che questo qua con la tua lettera, con la tua lettera cambierà idea. E invece, a quanto ho capito, ha ricevuto la lettera, dice ma tu non ti devi permettere qua, là. No, io mi sono permesso, in modo, perché lei mi ha trattato, in modo che mi ha trattato, lei non è stato ai fatti, come abbiamo stabilito. Dunque, ce lo togliamo dalla testa, andiamo per via legale e così vediamo cosa ne esce fuori. Se ha torto io pago io, se ha torto lei paga. Qua lo stabilisce il giudice, poi vediamo un po'. Aspettiamo un po' e tutto quanto. Adesso ho visto che si è ripetuta la stessa storia, adesso mi dispiace per lui, però io vado per via legale, punto e basta, e non rispetto più a nessuno, hai capito? Ci può essere padre, madre, moglie, figli, zii, più ne ha e più ne metta, non me ne frega più un tubo, hai capito? Salvato. Ciao, che poi non è questione che tu non vuoi rispettare gli altri, sei tu che vuoi finalmente riuscire ad avere il rispetto che ti spetta, che è una cosa ben diversa, cioè è proprio anche la ricerca da parte del lavoratore finalmente di essere considerato non solo come un mezzo semplice per riuscire a ottenere a far fare un determinato lavoro a prezzi stracciati. Cavolo, cioè, è anche proprio il rispetto delle persone che viene spesso a mancare, facendo poi leva sempre sul fatto che uno dice ma tanto se non viene a lavorare da me poi dove vai? E molti la buttano anche su queste cose qua. Tra l'altro comunque ricordati Giuseppe che c'è c'è il sito del CNEL, che è la banca dati ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Risorse Sociali, eccetera, eccetera, dove ci sono tutti quanti i contratti di lavoro nazionali, più trovi anche contratti di lavoro, accordi interni, eccetera, eccetera, eccetera. Te lo sto dicendo perché è anche utile spesso riuscire ad avere un'impressione anche diversa di quelli che sono inquadramenti mansionari e pubblici da parte proprio del lavoratore, di ciò che quindi dovrebbe sapere svolgendo determinate mansioni, determinati incarichi, ma ciò anche che gli dovrebbe essere dato, perché anche in tutti quanti questi contratti ci sono allegate nelle pagine di fondo, proprio negli allegati, le tabelle della retribuzione. E non è da poco, io quanto sarà adesso? Un annetto e mezzo forse, ho un carissimo amico che si chiama come te, che sta portando avanti una sua protesta non troppo spinta nei confronti del proprio datore di lavoro. Questo è sempre commercio, io gli ho detto intanto tu devi capire quanto è che dovrebbe essere la tua retribuzione, perché a nulla vale presentarti di fronte al tuo datore di lavoro con un po' di stizza e metterti a protestare chiedendo una somma X, che è la somma che secondo te sembrerebbe giusta, ma che casomai non ha nessun fondamento, perché nelle tabelle legate al contratto tuo non si parla di quella cifra, ma si parla di un'altra. Quindi avere anche la netta impressione degli importi, dei parametri, di tutto ciò che fa parte di quella che è la retribuzione di ognuno, è utile, soprattutto quando si inclinano i rapporti e quindi uno vorrebbe iniziare a mettere i puntini su lei e ricordare al proprio datore di lavoro, guarda che io faccio questo e quest'altro, e che il contratto stabilisce che deve essere pagato X. K. Ascolta, io ti chiedo una cortesia, Sabato. Tu, tanto che sei tipo rappresentante sindacale, tu questa cosa qua me la puoi fare avere, questa specie di coso? Se mi fai questa cortesia, te la pago, no, non c'è problema, me lo fai questa specie di statuto che lo obbedisce tutte quante le leggi e tutto quanto, se me la fai la cortesia me la puoi stampare e poi quando ci troviamo verticale, ci conosciamo, me la dai, almeno io so come muovere e sappiamo come, capito? Ma è su internet, Giuseppe, non è, guarda, nessuna, è semplicissimo, è il sito del CNEL, CNEL.it, lì ci sono tutte le categorie dei lavoratori, tutti gli ambienti di lavoro, agricoltura, foreste, pubblico impiego, sanità, capito? Ci sono tutti quanti lì, non hai nessuna difficoltà, ma tu ce l'hai un computer a casa? Negativo Sabato, se avrei avuto il computer a quest'ora me l'avrei già scaricato io, capito? No, non è possibile avere il computer perché io non lo so usare, capito? Vabbè, quello poco male, no? Pensavo che l'avessi. Senti, ma dimmi però una cosa, per non fare una ricerca così inutile, dimmi un pochettino esattamente il tuo contratto che cos'è, quindi terziario dovrebbe essere il tuo, terziario commercio? Sì, diciamo che io sono, diciamo, mi ha chiamato lui a me a lavorare come tutto quanto, capi, come fare tutto quanto, tipo generico, però lui contratto a me non me ne ha fatto neanche firmare, capito? Perché no, essendo che non mi ha neanche assicurato, che contratto mi fa firmare, non ho capito, se uno non ti assicura. Ma ascolta, senti, per darmi un'indicazione maggiore, tu mi hai detto che hai parlato con un tuo commercialista, con una tua commercialista. Sicuramente per poter fare i conti che ti ha fatto ha dovuto fare riferimento per forza a un tipo di contratto. Se tu riesci a contattarlo, non ho capito se era maschio o femmina, se non ricordo, segnarti il tipo di contratto che è stato utilizzato per farti quei calcoli, se tu riesci a darmi questa informazione io faccio una ricerca specifica e riesco a tirarti fuori tabelle e tutto ciò che riguarda questo tipo di lavoro. Va bene, ok, adesso quando io sento, quando oppure il telefono al mio commercialista, diciamo, o ci vado di persona, mi faccio dare questa cosa qua e poi ti farò sapere. Sì, guarda, proprio queste due cose, volevo sapere il mio inquadramento ipotetico e esattamente il contratto che mi è stato, diciamo, al quale io dovrei far riferimento per la mia retribuzione e per il mio inquadramento. Queste due cose. Per la mia retribuzione e per il mio inquadramento, qual è il contratto di riferimento che è stato utilizzato? Con questo elemento ci si può proiettare nella banca dati del Ministero e vedere esattamente tutto quello che è prescritto là dentro. E quindi anche avere casomai degli altri spunti che può darsi che in questo momento tu non abbia, perché non ci stai pensando, perché non ti è venuto in mente, e quindi avere ulteriori carte e ulteriori frecce da poter utilizzare al momento opportuno, che la cosa non guasta mai. Va bene, ok, dai. Adesso, come è rientrata dalle ferie, perché adesso è in ferie il mio commercialista, provo a parlarne un po', vediamo, io tanto ero assunto, diciamo così, assunto, da 90, io ho iniziato a lavorare la prima volta lì, in quel stabilimento dal 93, lui dal 93 sino adesso, a oggi, dal 93 sino a oggi, non ho mai dato né una busta paga e né firmato nessun contratto, capito? No, guarda, non esiste, Giuseppe, è una cosa vergognosa, quindi non ci sono altre parole. Sai, appuntati queste cose e alla prima occasione me lo dici e facciamo una ricerca assieme. Poi casomai con lo stesso metodo che vediamo di utilizzare con Antonio Grotte ti posso far avere il materiale, un CD, un DVD, qualsiasi cosa che poi eventualmente ti puoi guardare anche con calma, oppure il cartaceo direttamente. Antonio, ti abbiamo fatto svenire. Negativo, stavo ascoltando, ti ripeto. Per udirsi in merito non è mai una perdita di tempo, anzi. Però colgo l'occasione per dirvi che io davvero sono arrivato allo stremo delle forze e sono rimasto sveglio proprio per ascoltarvi, perché volevo sapere di tutto. E vi ringrazio per il QSO 7351. Sentiti ben ascoltati, la stazione, la grande stazione Grotte va in QRT. Vi saluto, ciao. Ciao Antonio, la grande stazione, l'ultimo parte di ciglia e poi potevo collassato nel letto. A risentirci, grazie a te per il QSO. Giuseppe. Ciao Antonio Grotte, buon 144 quando lo fai, salutami al tuo 25, Policina, mandali tanti bacioni da parte mia, e grazie per il QSO, anche se abbiamo parlato poco, e sei rimasto all'ascolto, dai. Ciao. Oh, Salvatore. Ciao, ma c'era un'altra voce, mi è sembrato. So, vieni avanti, chi è l'amico? Leoncini, Salvatore, Domenico Lari, arrivato a Città di Sassari. Ti rimando l'amico Salvatore che ti spiegherà se ti deve trovare situazioni tipo le mie, ti indirizza un po' lui che essendo rappresentante sindacale ne sa più un po' più di me. No, per carità. Guarda, Giuseppe, di necessità virtù, nel senso che ama la gana quando ti trovi a dover affrontare determinati problemi, o hai il coraggio di iniziare a documentarti, di fare le tue battaglie personali, di prendere le sberle, ma di cercare anche di darle, se no altrimenti effettivamente nel mondo del lavoro è così. Purtroppo è così, e se non ce l'hai tu il coltello dalla parte del manico sono dolori. Comunque Domenico, speriamo di non averti annoiato. Negativo, io la mia esperienza su 42 anni ne ho parecchia, non credo al sindacato, però mi sono sempre difeso da me, e ce l'ho sempre fatta. Ma sì, il discorso dei sindacati poi è molto particolare, te lo dico io, che faccio tanto sindacale, ma è molto, molto particolare. Ho visto molto, hai capito 100 cose. Sì, no, no, allora qua vengono, ci sono i miei colleghi qua, vabbè, è un'altra azienda, no? Sono sempre i miei colleghi per un'altra azienda, sempre da te, certo. Il mio datore di lavoro però è un'altra azienda, e vengono, parlano, fanno, tirano, molano, quello e quell'altro. Io sono sempre scettico, la vita è sempre scettico. Io anni fa ho perso male 40 milioni, ci ho perso per colpa del sindacato, la causa vinta, tutta una volta sono spariti i documenti, tutto qua. Da lì ho imparato a mettermi il mio avvocato, è capitato altre due volte, io sono sempre andato avanti così, basta. Campano me. Ma guarda che il filo conduttore, che purtroppo molti, soprattutto i territoriali, coloro che diciamo iniziano ad avere già o pensano di avere già una certa influenza negli apparati, questa storia di perdere documenti importantissimi che sono spesso unici, che poi sono anche l'elemento più importante per poter riuscire a far prendere una causa casomai dalla tua parte, vengono persi. È una cosa incredibile, c'hanno le gambe. È proprio così. Anche adesso io il 28 qua chiuderà l'azienda, chiuderà, ci dobbiamo scrivere al sindacato, ci dobbiamo licenziare, ci dobbiamo riassumere, non si sa niente, non sappiamo niente, dobbiamo solo firmare questi documenti. E boh. State sempre attenti quando firmate, dov'è? Chiaro, non sei un pivello, non stai lavorando da un mese, però mi raccomando, state sempre attenti quando firmate i documenti e soprattutto quando i documenti ve li presentano i sindacati. È quello che ci stanno costringendo, noi non ci vogliamo scrivere al sindacato, noi non ci vogliamo scrivere e loro ci stanno costringendo a scriverci al sindacato. Perché? Cosa c'è sotto? Guarda, questa è una grossa cretinata. Questa è una cretinata. Questa è una grossa cretinata perché? Perché intanto l'unica forza che potrebbe essere è quella che eventualmente ti passano un legale del sindacato, ok? Quindi con quelle parentesi famose che di cui abbiamo parlato poc'anzi. Sempre una causa di lavoro è nel caso. E comunque sempre una cosa gestita a livello legale, non è che il legale del sindacato ha una conoscenza di chissà che è quel picco pallo che invece ti vai a pagare tu di tasca, non ne ha un altro. È chiaro, qui si tratta semplicemente di affidarsi, quando si fanno determinate cose, affidarsi a chissà esattamente la materia. Punto. Non ci sono altre cose, e quindi possono essere un gruppo di persone, un gruppo di lavoratori della stessa azienda, così come può essere uno solo. Molti purtroppo, miei cari colleghi che dicono di fare sindacato, spesso dicono, ah guarda, non c'è assolutamente problema, la causa è praticamente vinta, però intanto ti devi iscrivere da me. Devo poi verificare che quando, dopo che tu ti sei iscritto, la cosa non era proprio così vinta come si diceva all'inizio. Ed è una cosa che purtroppo viene fatta sistematicamente. Siccome io non sono pagato dal sindacato e quindi non me ne frega niente, io questo discorso qua non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto. Per cui anche i miei colleghi d'ufficio, che tra l'altro sono anche rappresentanti di altri sindacati, se la mano d'aiuto la do, così come la do, posso chiacchierare con te, con Giuseppe, con qualsiasi altra persona, e non perché subito dopo sto chiedendo, oh, guarda quel pro, ti devi venire a iscrivere, no, perché tanto in ogni caso anche i soldi di quell'iscrizione non è che vengono a me, vanno a un'organizzazione che spesso e volentieri si dimentica di che sta facendo il lavoro, che sta tenendo contatti con la base, con il territorio. e quindi non me ne frega niente di tutti quanti questi signori che me li immagino con queste parrucche bianche dietro, queste grandi scrivanie con le etichette delle sigle dei sindacati, aspettare gli introiti derivanti da questa iscrizione, poi non mi interessa, io non faccio mai opera di proselitismo, per cui non sto mai dicendo a uno avanti devi iscrivere oppure no. No, dei buoni consigli, cioè, dei buoni consigli, cerco di dare dei consigli sperando che siano buoni, perché a me quello che interessa è che una persona in realtà sfrutti queste informazioni per risolvere il proprio di problema, non per andare a foraggiare un sindacato o qualche altra organizzazione. Positiva, lo fai onestamente, tranquillamente, senza quelli che vengono qua sono pagati, anche l'ultima volta ho detto poi. Io gli ho detto in faccia, guarda, puoi abbaiare, ti puoi mettere anche, si è messo per un annetto, no? Si è messo sopra 5-6 pedane, si è messo, però ti puoi mettere anche più alto. Ma per quello che non lo conosco io, i 9 anni che ho visto, quando deve chiudere, chiude e basta, non c'è problema. Sì, no, no, guarda, per carità. Per carità, per carità. Pensa che dunque con due colleghe d'ufficio nel 95, mi sembra, sì, nel 95, mettemmo su la nostra rappresentanza sindacale nel nostro ente. Beh, qualche mese dopo mi trova nell'ambito un'altra collega e mi fa: ah, Salvatore, ma ascolta, ti volevo chiedere questo, ma se io mi iscrivo da te, tu me la fai la richiesta per l'inquadramento di mansioni superiori? Cioè, non ti dico, io allibito me la guardo, signora, ma mi scusi, io non sto vendendo mele o pere, non sono al negozio della frutta e verdura. Lei mi sta dicendo questo perché pensa che effettivamente il lavoro che lei svolge sia da inquadrare in una mansione superiore, oppure lo sta facendo così perché, ma a parte lei, mai l'avessi detto, ma io dopo 20 anni che sto lavorando qua dentro mi spetta di diritto una promozione, un avanzamento in carriera, mi spetta di diritto. Ah, Napoleon, ascolti, stiamo già parlando su altri livelli, lei dico, lei, io non mi iscrivo, non si rivolge a qualcun altro. Fatto bene, grazie per interesse. Io, ma guarda, non ci vedo, non mi ha dato ancora niente, se mi dà qualcosa può darsi, come quello là che diceva, andiamo a trovare il Papa, perché il Papa è mai venuto da me. E come Maometto, no? Ciò che dico, un'altra religione, Maometto non va dalla montagna, la montagna deve andare da Maometto. Positivo, questo sono io, capito? No, non si può affrontare un discorso così, parlare, però poi i fatti non sono niente, perché il sindacato c'ha potere fino a un certo punto, a un certo punto non ci può fare più niente, è inutile così. Sì, io dico la casa del lavoro, ma la maggior parte della casa del lavoro se ne comprano, perché chi sta lì, io parlo di via 4 novembre, vive delle mance. Io ho visto un addetto alla sicurezza lì che è venuto da lì, ragazzo, vuoi questo, quello, quell'altro, boh, è venuto con una 1 tutta associata, dopo 15 giorni ci aveva quei tempi, la bravo nuova, zitto, non ci voleva più quel cartello, non ci voleva più le scarpe, non ci voleva più quello, non ci voleva più niente. Per carità, di questo ne abbiamo parlato poco fa con Giuseppe, e poi ha discapito di chi? Della salute, della sicurezza del lavoratore stesso. No, Giuseppe? Giusto, Salvatore. Io dico questo, uno su queste cose quando non le sa deve chiedere alle persone che ne sanno qualcosa più dell'interessato e l'interessato deve dare delle informazioni giustamente che siano giuste, capito? Se no non può, come può basare sulle cose, ha capito? Lodomì. Lo so, io purtroppo i tempi che stanno correndo sono quelli, non è che ci puoi fare una... Io vedo che sono dentro la sicurezza qua, dentro questo deposito, dentro i miei operai, però ne ho le palle piene, l'azienda dice fino a un certo punto, cazzo, lo sai quante volte mi scende, scarpe di forno e vicine e quello e quell'altro. Eppure si deve comprare, però non mi hanno mai comprato, quindi dici vogliono, basta, se no non lavori, ti faccio fare la letterina, eppure no, non è così, ma io lo faccio così, non sono né studiato, non sono nessuno, ho assistito a qualche cosa di sicurezza sul lavoro, basta, ma mantengo quella linea lì che mi hanno insegnato. Capa, ho capito. A riguardo a quella questione che tu hai detto da Odomi, mi sembra che il giorno è venuto un sacco di cose lì dove al tuo posto di trabacco e io l'ho saputo da un'altra persona che abita qua vicino, che tu conosci abbastanza bene. Io non ho fatto niente, non hanno risolto niente. L'azienda che c'era ha chiuso e basta, non fa spiegarlo qua dentro. Io ci sono 9 anni, quella persona che abita lì vicino, cioè l'ho fatto entrare io, c'è pochi anni, non sa tutti i movimenti. Queste sono cooperative, cioè, adesso ve lo diciamo una cosa, sono cooperative che nascono e chiudono. Ho capito com'è. Vabbè, purtroppo uno quando è in mezzo a queste cose non sa dove va incontro, capito? Contro questo, ragazzi, puoi chiedere anche a lui, lo puoi chiedere, state lavorando, ci avete un ottimo stipendio, vi stanno pagando i contributi, fino a quando vi va bene rimanete qua, se trovate un altro posto di lavoro sono il primo che dice andate via. Però per rimanere in strada 1200 euro assicurato non te li dà nessuno. Cappa, appunto perciò è quello che hai capito Domi. Io avevo fatto la domanda in quel posto lì, hai capito dove sei tu, dove stai lavorando tu. Solo dice che per adesso che era un calo di personale e tutto quanto e non stavano cercando autisti. Io avevo già fatto la domanda. E non altro, ero puro all'altro, quello che hanno i furgoni bianchi, quello DSS, quello lì. Io ho provato 3 giorni, ho detto no, questo qua è tutto diverso all'altro. Quello lì è un'altra azienda, quello lì è un'altra azienda, quello lì arrivi a 800 euro. Capito, no? Per dire, no? Io ho fatto la domanda dove sei tu, però loro mi hanno spiegato, guarda, in questo momento non c'è bisogno di autisti perché autisti ne abbiamo anche troppi, però se dovesse capitare sarai contattato di fare un colloquio e provare, e ti mettiamo alla prova con un altro autista. Chiamato Tanno, c'è tanto mano chiamato a me. Ma guarda, quando sono serviti li abbiamo sempre presi, li abbiamo fatti fare la prova, c'è qualche uno che non gli piacevo, è andato via per altri 100.000 motivi, però mappa, quello sì. Però ti ho detto come io ti ho detto, avevo chiesto, però ma loro mi hanno detto che no, per ora no, non avevano bisogno di autizi. Dunque mi piace anche quella persona che abita qui vicino che ti può confermare se è vero o no. Comunque, tanto che sei, che tu adesso, che sei in quella zona lì, in quel posto di lavoro lì, dai, chiedi se hanno bisogno, dove, io chiedo solo a te una cosa di favore, se è fattibile, se non è fattibile ti ringrazio lo stesso, se hanno bisogno di qualcuno, hai capito? Fammi entrare almeno nel posto di lavoro, diciamo, almeno per togliermi la bocca, il pane da capito, no? Già mi hai capito tu dove? No, io l'ho proposto, la maggior parte ci sono ancora, la maggior parte si sono comportati male, io quando si comportano male dopo che io lo prendo e ti spiego filo per filo la cosa come sono, e non te ne spiego diverse perché io ho 42 anni, però sono 25 e faccio questo lavoro qua. Prima ero sopra i furgoncini, adesso sono sopra un articolato, però lo conosco il lavoro, lo spiego filo per filo, glielo faccio provare, dopo se fa il cane allora anche io faccio il cane e faccio di tutto per mandarsi via. Sono un cane, quello è senza un ingavetto. Sì, vabbè, Domè, d'accordo con te, tu sei tipo un datore di lavoro, capito? Il datore di lavoro ti prova, se ti va bene ti assume, se non ti va bene ti dice, ascolta, mi dispiace, puoi andare a casa, perché per noi questo lavoro non coincide per te. Non è, io non sono nessuno qua dentro, però tutti mi chiedono. Capito? Tutti mi chiedono perché sono il più anziano, sono di un'altra azienda, faccio parte di un'azienda, sono più a contatto con i capi grossi e chiedono quello, ma c'è quello lì che ha fatto quello, io vengo a sapere tutto, anche se l'altro giorno non ci sono qua, però vengo a sapere tutto, vengo a sapere, figurati. Però dico, quello lì avvenga a me corto, capito? Perché dopo li mettono tu, mi succede la metà di quell'ora in quel periodo e si costretto andare via, capito? Ma vabbè, comunque, dove? Io ti chiedo solo questo favore, se riesci a incrementarmi in quel posto di lavoro, ti dico grazie per adesso, poi verticale ti saluto meglio, e se ci riesci a farmi entrare, perché te lo sto chiedendo come posso essere un figlio, capito, dove? Dunque, c'ho una famiglia da mantenere, dunque c'è un figlio che poi ti spiegherò in verticale com'è, e proprio io lo sto facendo solo per lui, capito? Solo per il bambino, non per altro. E per adesso ti dico grazie. Se c'è la possibilità, volentieri, non c'è problema. Facciamo riprendere l'altra, mica bisogna dire che tanto il nome. Non c'è problema, dove Salvatore. Io invece ne approfitto perché chiacchierando non mi ero accorto che le mie donne di casa sono già andate a letto ed è venuta mia figlia ad avvisarmi di abbassare la voce, che stavano dormendo. Quindi niente, io ne approfitto e vi saluto, vi cordializzo tutti e due e buon proseguimento di QSO alle prossime, dove quando sarai nuovamente in zona, perché non riesco a sentirti quando sei fuori Sassari, non sono riuscito poco fa a tirarti fuori. Giuseppe, mi raccomando, prendi nota di quelle cose appena hai la possibilità di sentire il tuo commercialista, come siamo rimasti d'accordo. Ok, buon proseguimento di QSO e buon tutto per domani. Ciao. sarà fatto, quando rientra ti farò sapere. Ok, ti auguro un buon 144, un buon tutto, dai. Vabbè, dov'è? Anch'io chiudo e ci sentiamo presto, o verticale, quando ci avremo il modo di vederci e ne parliamo a persona, dai. Ma domani, ma tu devi caricare nuovamente e partire nuovamente giù. No, no, ho finito, finito, finito. Me ne sto per andare, tutto qua, mi stavo facendo anche il gradino, poi tutto la casa. Ci sentiamo, dai. Buon proseguo, buon tutto, alla prossima. Ciao Domè, buonanotte, buon 144, quando lo fai ci sentiamo presto, verticale, almeno ci prendiamo un caffè quando ci incontriamo e ne parliamo di persona, ok? Ciao, buonanotte da me. Ciao, parola.